Allora parlo con la zanzara, Radio ciao 24. Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che sì, tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, no, niente no, male, La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Popolo della zanzara, mettiamo insieme 50 centesimi a testa, arriviamo altro che 200.000 euro, 300.000 euro, e vogliamo vedere incappettato Cruciani in diretta via radio. Lo vogliamo sentire e vedere da parte di chi? Oh, allora dunque, ah, Giuseppe, ciao, sono qui al Bancomat. Dicevo, ma allora per inchiappettarti quanto ci vuole? 200.000, 300.000? Me lo fai sapere così prelevo, grazie. Va bene, parleremo ragazzi, su, ne parleremo. Era una provocazione, però non è che mi tiro indietro, Parenzo, non mi tiro indietro. Era una provocazione collegata a che cosa? Quella che ho fatto ieri. No, era adesso su... devi farlo invece. Sì, assolutamente. Se qualcuno si presenta con un assegno a 200.000, ho detto che lo faccio. Ma era una provocazione, non è che lo voglio fare ed è il mio obiettivo farlo. Se qualcuno si presenta con un assegno, siccome l'ho detto, lo faccio senza problemi. Era semplicemente per dire che possiamo tranquillamente, secondo me, vendere una parte del nostro corpo se ne abbiamo bisogno, se ne abbiamo piacere, ed era collegata alla vicenda dell'utero in affitto. Molto semplice, non è che ho detto voglio essere inchiappettato per 200.000 euro, non ho detto così. Ho visto che alcuni siti hanno ripreso la cosa, l'ultima follia, l'ultima provocazione. Non c'è nulla di provocatorio, era semplicemente una, come dire, una logica conseguenza. Ho detto ognuno di noi ha la possibilità di vendere una parte del proprio corpo, secondo me legittimamente, in cambio di denaro, se vuole, e non gli deve essere impedito di farlo, no? Allora ho detto, se mi offrissero una cifra consistente, per esempio, io potrei farmi anche inchiappettare, ho detto. E ho sparato, ho detto, la prima cifra che mi veniva in mente è 200.000. Puliti, lisci, 200.000. Appartamentino. E via, tutto questo per che cosa? Vabbè, entreremo nei dettagli più avanti, Parenzo, più avanti. A proposito, hai deciso il nome? No, ancora no. Qual è il ballottaggio? C'è un ballottaggio? No, non c'è ballottaggio. Non c'è ballottaggio? No. Cioè, manco ballottaggio. No, ma sì, non te lo dico in onda. È più facile che Salvini appoggi Bertolaso. Beh, però attenzione, che io ti dica il nome. Attento, il nome, no, ma lo so che non lo dirai. Ma non è quello, ma c'è un ballottaggio. Almeno possiamo fare un ballottaggio, no? Guarda, no. C'è un ballottaggio. No, potrebbe esserci un omaggio a Squinzi e quindi Giorgio. Ma no, questo no, già scherzo, l'hai detto, già l'hai lo detto. So, questo è... Giorgio, no, ma secondo me potrebbe essere Luca. Possibile Luca? Difficile, no, Luca, no. Luca è possibile? Ho pensato io, ci ho pensato anche stanotte. Cosa potrebbe essere Luca? Ma Luca è un nome ebraico? Potrebbe anche essere, perché era Shaul nella Bibbia, diventato poi Luca, come sai la storia. Potrebbe di... essere Luca, allora, attenzione. No, scavando no, si riesce ad arrivare. Ti dico, è più facile Salvini. È più facile Salvini. Guarda che Salvini che appoggia Bertolaso non è proprio una cosa, no, così. Mi pare di no. Mi pare proprio di no. Magari in ticket con la Meloni. A proposito, la Meloni, la signora Meloni, sentiamo che cosa ha detto, sentiamo cosa ha detto a proposito di questa vicenda che sta diventando anche un po' tedioso, un po' noiosa, di chi sarà il candidato del centrodestra a Roma. E francamente non sarebbe neanche così, diciamo, entusiasmante ritrovarsi a candidarsi sindaco di Roma al settimo mese di gravidanza, in buona sostanza, perché per mettere, diciamo così, pace nell'asilo del centrodestra. Ora io francamente non capisco, ci ho pensato anche abbastanza, non è che la gravidanza è una malattia, cioè al settimo mese di gravidanza, a parte che potrebbe essere un vantaggio mediatico non da poco, cioè un sindaco, un candidato sindaco in campagna elettorale col pancione, ma sai i voti che prendi? Beh, amico mio, un beh, sì, però non c'è, evidentemente ha fatto altre valutazioni, cioè non ce la fa a fare la campagna elettorale. Ma non è una malattia, cioè non, non ma è magari un... fisicamente non ha voglia di rischiare. Vai lì dal letto d'ospedale collegata, eccetera, se succede qualcosa, tutta pubblicità, dai, su. Ma non è, poi non è una malattia, si può fare tranquillamente, c'è gente che io conosco che sta fino all'ottavo mese tranquillamente al lavoro, non si capisce perché non si possa fare la campagna elettorale a Roma, francamente. Crozza strepitoso su Berlusconi. Sai che Berlusconi pare che chiami 60 volte al giorno questa sua nuova fiamma, no? Questa Lavinia, questa tale Lavinia. Sì. 60 volte al giorno, così riportava il Fatto Quotidiano l'altro giorno, eh? 60 volte al giorno, 60 ragazzi, eh? Crozza. Ho letto sul giornale che Berlusconi le farebbe 60 telefonate al giorno, più o meno ogni 20 minuti, ma non è stalking. Non credo che sia stalking. Secondo me è perché non si ricorda, poverino, di averla già chiamata. Pronto, ciao, amore. Amore, come stai? Come stai, amore? Ma me l'hai già detto? Sì, scusami. Come stai, amore? Me l'hai già detto? Sì, scusami. Come stai? È stupendo questo. Case chiuse, no? Questa ha ragione Crozza, da un certo punto di vista sono due cose diverse, la prostituzione e l'utero in affitto, però qualche collegamento ci può essere. Tra l'altro ho notato che i più contrari all'utero in affitto sono gli stessi che vorrebbero la riapertura delle case chiuse. Praticamente utero in affitto no, ma vagina a noleggio sì. Argomento delicato. Allora ragazzi, andiamo... No, un'altra cosa prima di nuovo, di Vendola, eccetera, eccetera. Dico una cosa però. Allora, pensateci bene, utero in affitto, prostituzione, bordelli, nucleare... Tutto avviene poco lontano dai confini italiani. Cioè c'è gente che guadagna un sacco di soldi facendo utero in affitto, cliniche dell'utero in affitto, centrali nucleari risparmiando un sacco di soldi di energia e bordelli e prostituzione legalizzata tutto intorno all'Italia, a pochi chilometri. Noi per moralismo, per il Vaticano, per gli ambientalisti non facciamo un cazzo e c'è questa sorta di emigrazione. No, il nucleare per fortuna non c'è nessuna emigrazione, no, magari di tecnici italiani, però se succede qualcosa in Francia... No, dove compriamo ci sono... l'energia dei francesi. Esatto, c'è l'emigrazione dell'energia, sì, portiamo l'energia qua in Italia, oppure qualche tecnico va anche a lavorare fuori. Cioè c'è un'emigrazione verso la prostituzione, verso l'utero in affitto, cioè guadagnano gli altri e noi per mille motivi, moralismo, ambientalisti del cazzo... No, non c'è moralismo sull'utero, sul resto. Senti, amico cose, mio, ma è un fatto o no che ci sono tutte queste cose all'estero? Sì, noi... ma non è detto dai, che laddove ci sia per forza un paese tutto civile. Positivo, nucleare, prostituzione e utero in affitto. Io voglio un paese dove c'è insieme nucleare, prostituzione e utero in affitto. Allora, Di Battista vuole fare la rivoluzione sul canone della RAI. Sul canone della RAI. Sentite, non si capisce se vuole dire non pagate il canone RAI, perché è una vergogna, la RAI è lottizzata, la sinistra ha messo la Bignardi, non so che cosa, oppure semplicemente non dicendo che non ha il televisore, però questo già si può fare, non è che ci vuole Di Battista. Perché noi cittadini dobbiamo pagare il canone a voi per mentirci? Di fatto avete lottizzato la RAI inserendo personaggi vostri anche ultimamente a RAI 3. Io, sottosegretario, la televisione non ce l'ho, il canone non lo pagherò, spiegherò ai cittadini come non pagarlo e sarà un piccolo atto rivoluzionario. Bene, benissimo, io sono d'accordo al 100%, magari si facesse questa battaglia, una grande battaglia contro il pagamento del canone, però bisogna capire che cosa significa, se a prescindere dal possesso del televisore o semplicemente, altrimenti non è una battaglia, non c'è nessun gesto rivoluzionario, perché basta dire con un'autocertificazione non ho il televisore e pare che non si pagherà. Battaglia Santanchè Casarini, sempre su Vendola, bambini, utero in affitto, eccetera, eccetera. Santanchè Casarini. Mancava il parere della Santanchè. Per il figlio di Vendola scatena un disastro. Poi per i bambini che ammazza nel Mediterraneo, alle frontiere con la Macedonia, nelle guerre, non gliene frega niente dei bambini che muoiono. Ma quei bambini sono già nati, solo di quelli, non si fanno nascere apposta. Allora... senta un attimo, che è rivolto a lei, soprattutto questa roba qua, è rivolta a lei. Allora, Io le dico, voi vi scandalizzate perché uno fa nascere un bambino, ma non perché uno ne fa morire 10.000. No, no. Ma che razza di mondo è qua? Posso dire sommessamente al professore Casarini che non c'entra una stramaledetta mazza la vicenda dei bambini che muoiono al confine per mille motivi e la questione dell'utero in affitto? Io sono a favore dell'utero in affitto, però che cosa cazzo c'entra sulla vicenda del con quelli che muoiono al confine, i profughi, eccetera? No, dici che fa più scandalo. Il ragionamento, il paradosso ci può stare, no? Anche lui lo usa. Fa scandalo, fa scandalo. Cioè fa più scandalo a molti. Ma non è vero, un sacco di gente, vendola, un sacco di che gente poi siccome diventa vendola, cioè questo è il punto. Sì, un invece sacco di gente si scandalizza pure per i bambini morti. Non è vero questo qua che non si scandalizza. No, la ma gente era rivolto alla Sant'Anchè. No, ma era rivolto, dice, non c'è grande scandalo sui bambini morti, invece vi scandalizzate per quelli che nascono. Dai. Il collegamento da Borgo Sesia. Chi è per te da Borgo Sesia? Parenzo, chi c'è da Borgo Sesia? Uno che violenta il cassone, uno che governa un comune dove abusano dei cassonetti. Tu sei fissato con questa cosa dei cassonetti? Un episodio di qualche anno fa ormai. Non è che ogni volta che c'è Borgo Sesia fatti delle domande. È l'unico comune dove succedono queste cose. Buon anno, buonasera Gianluca, come stai? Ciao, buonasera. Bene. Sai che sta mettendo in piedi una rivolta contro il parroco praticamente, perché ospita sei clandestini, Parenzo. Sei. Sei persone. Sei, vero? Beh, sei sì, perché ha potuto solo ospitarne sei, voleva ospitarne 20. E tu gliel'hai impedito? Numeri da invasione. No, non è numeri da invasione, è una questione di principio, non è questione 6, 20. E perché gli rimprovero? Non ho capito, perché non ospita gli italiani? Perché cosa? Appunto, perché non aiuta gli italiani? Io ho portato gente, quindi, in maniera fisica, di Borgo Sesia, che hanno chiesto aiuto al parroco che gli è stato negato, di tutti i tipi, da chi ha il figlio. Cioè tu dici, purtroppo, questi italiani bisognosi avevano chiesto aiuto al parroco, che se ne è sbattuto i coglioni, tu dici, e invece e poi adesso ha spinto per avere sei clandestini, questo è il punto. Sì, noi ha spinto per averne 20, però adesso ne ha sei, tra l'altro arrivano 5 dal Gambia e uno dal Senegal, cioè dove non c'è la guerra, quindi mi devono anche spiegare qual è la questione. Ma dopodiché il principio vero è che questo parroco che vive in un appartamento, ascoltate bene perché non sono frottole, di 405 metri quadri con ascensore interno. Cioè c'è un parroco che vive in un appartamento di 400 metri quadri. Vive in un appartamento con 405 metri quadri, ascensore interno. Una specie di piccolo... due piccoli appartamenti sempre nella stessa casa per un totale di 750 metri quadri. Cioè è una specie di piccolo Bertone questo qua. Eh beh, infatti nel mio manifesto ho scritto... Ma chi è il nuovo Cardinal Bertone? Non ospita nessuno, non ha dato una mano a nessuno, e anche dove sono ospitati questi clandestini profughi, sì, poteva ospitare qualcuno di Borgosese che magari dormiva in macchina, come è capitato a me di aiutare, come gente che non ha neanche l'acqua calda, non ha riscaldamento. Come si chiama questo prete? Come si chiama sto parroco? Don Ezio, di cognome come fa? È anche un evasore fiscale, tra l'altro. Vabbè, poi lo spieghiamo, fermo lì, dice che è un evasore fiscale, non lo so. Quando sento il traffico divento pazzo. La Zanzara. Però, caro Parenzo, prima di tornare a Borgo Sesia, volevo chiedere a Bonanno la sua augusta opinione sulla vicenda Vendola. Tu non sei curioso di saperlo? Ma francamente anche no la sua, perché posso già intuire delle cose. Ma temo, che cosa però... puoi intuire? Vabbè, insomma, che pensi di Vendola? Diciamo che quando ho sentito che ha adottato Tobia, se non sapevo tutto il resto della storia, pensavo che avesse adottato un cane, perché Tobia è il nome anche di un cane, ma non ce l'ho con il bambino, ci mancherebbe. Però questo signore che ha 57 anni, che ha sempre difeso lui, dice, gli oppressi, i deboli, i poveri, va in California, spende 135.000 euro, se ne frega e delude le leggi italiane, e praticamente insieme al suo compagno che utilizza due donne, una indonesiana che partorisce, questo lo sappiamo, dunque una californiana con gli occhi azzurri perché deve essere quella che ha l'ovulo, e alla fine produce un che bambino. E lui però in realtà non produce nulla, perché vabbè, questo lo sappiamo quello che è successo, infatti si chiama utero in affitto, ma tecnicamente lo sappiamo. Dunque tu come consideri queste due donne? Siccome avranno sicuramente preso dei soldi, se non hanno preso dei soldi, non dico, vabbè, hanno fatto un'opera per loro caritatevole, se non hanno, se hanno preso invece dei soldi, li considero delle prostitute. Delle puttane, dici? Le prostitute, cioè, si fanno pagare per fare un determinato lavoro. Beh, questo è quello che abitualmente si dice, no? Vabbè, quindi dunque questa situazione mi ricorda un po' come si fa con i tori, no? Cioè? Si prendono le vacche, il toro, si fa in modo che il toro, diciamo così, venga sempre di più con gli ormoni forti, e sì, poi alla fine si prende quello che produce e si mette nella vacca. E lì è la stessa identica cosa, brutto a dirsi, ma la realtà è proprio così. Cioè, tu consideri queste due donne, tu consideri queste due donne delle puttane? Se l'hanno fatto per soldi, e che cos'è allora? E Tobia chi è? Per la provvidenza. Beh, e Tobia chi è? Com'è? Tobia come lo consideri? Beh, diventa naturale dire che se queste, se hanno preso dei soldi, come dicono tutti, sì, sono delle prostitute, lui ovviamente è figlio di una prostituta. Cioè un figlio di puttana, dici? Ma nella sostanza, ahimè, viene fuori un discorso del genere. Ma io dico, ma per finire sui giornali, non poteva inventarsi una cosa più intelligente? No, io ho fatto solo un ragionamento. Anziché comunque offendere un bambino, non poteva inventarsi questo qui qualcosa di più, come dire, costruito, un po' più intelligente? No, che so io, mi ha fatto un discorso. Una vaccata, ha detto. Una classica vaccata in stile buon anno, ma per carità. Ormai non farà neanche più scandalo. Calcio, mi dicevano figlio di puttana, come è capitato a tutti, come è capita ancora oggi in Serie A, come abbiamo visto, Sarri cosa dice, Mancini, eccetera, eccetera, si dice di tutto. Io ovviamente non mi offendevo. Cioè tu dici, tu dici il figlio là, Tobia, è un figlio di puttana, in senso... Se giocherà Tobia, non so se si potrà offendere o no, ma non ce l'ho con lui. Io ce l'ho con gente come Vendola, come suo compagno, che se ne fregano delle leggi, che se ne fregano di tutto e che fanno i loro porci comodi per egoismo, solo esclusivamente per egoismo. Per cui tu dici, tecnicamente può essere definito un figlio di puttana. Se queste due donne hanno preso dei soldi come io, hanno preso dei soldi, quindi per me personalmente sono due prostitute, perché chi prende dei soldi per fare una determinata cosa è prostituzione. Pazzesco. E quindi queste due donne per me sono come le prostitute, niente di più e niente di meno. E di conseguenza, se nasce una persona, quindi un bimbo o una bimba, da persone come queste, uno si gli dice figlio di, non si deve offendere. Ma figlio di, ma no, ma dillo, bambino, però non avere paura, non l'hai detto, non avere paura di dirlo, cioè figlio di puttana. No, non mi piace neanche dirlo. Beh, ho capito, ma l'hai detto, cioè, come se l'avessi detto, è incredibile. È come se l'avessi detto, scusami. Certo, ma non ti preoccupare, che non ce l'ho. Non ti preoccupare, che finisci sui giornali. Ma adesso che cazzo c'entra, scusami? No, ma lui lo sa, lui lo fa per quello. Ma che ne è? Mica è una battaglia politica. Ma tu, quando vedi i tuoi ospiti, vanno in televisione, che gli dici? Vuoi rimanere sui giornali quando dice una cosa del genere? È chiaro che quando uno dice una vaccata simile sa già dove va a finire. Non ti preoccupare. Ma che te ne frega te? Ha fatto un ragionamento. Ho fatto un ragionamento. Io non lo chiamerei ragionamento. L'unica cosa che ha fatto Vendola è che al limite ha dato una mano al suo compagno, cioè ha usato una mano, perché sodomia, ecco, e libertà, aggrava. Alla fine fanno quello, cioè, che senso ha dato? Non ha ecco fatto che niente, aggrava, cioè, in che senso ha dato una mano? Spiegami, ha dato una mano, non c'è niente, l'unica cosa gli avrà dato una mano, Da che putazzo dici? Eccolo per là. Lo sperma, dici, per la produzione ecco di sperma, gli avrà dato una mano per quel che poteva, che ne so io, cioè, se poi lui e papà o la mamma, poi dobbiamo anche capire, adesso c'è la festa del papà, la festa della mamma, dovremmo anche fare la festa di chi ha dei figli così. Cioè, inventare una data durante l'anno. Vabbè, cioè tu dici festa del gay. Vabbè, ci sarà la festa del papà gay, cioè la festa del papà omosessuale, la festa della donna. Festa del papà, appunto, della donna, la festa del papà. Vabbè, punto. Ma chi se ne frega poi delle feste, no? Cioè tu dici bisognerà inventare una festa apposta, qualcuno. Sì, perché sennò per il papà non va bene, per la mamma non va bene, per tutti e due, io non lo so. Sì, comunque ragazzi, l'unica cosa. Comunque mi dà fastidio questa cosa di Vendola, ma non perché io ce l'ho con lui, non me ne questo non si era capito. Ha illuso le leggi, ha fatto quello che voleva. Va arrestato, secondo te? Va arrestato? No, arrestato? Va arrestato? Non è che va arrestato, perché ahimè in Italia questa cosa non può accadere. Però io. Cioè, no, ma secondo te andrebbe arrestato, sì o no? Se tutto il mondo venisse. Proibita, d'accordo. E dunque, secondo te, nel tuo mondo ideale, andrebbe arrestato Vendola uno che fa una cosa del genere? Ma no, Vendola no, più il suo compagno, perché Vendola alla fine, tu vi ho detto. Vabbè, ma pure lui contribuisce. Cioè, secondo te, il figlio là, andrebbe arrestato? Qualcuno lo dice oggi, cioè, qualcuno l'ha detto. Chi avrebbe arrestato chi? Ed, come si chiama? Ed, il compagno di Vendola. Ah, ecco, beh. Sì, ma se ne fregano tutti, perché alla fine sono tutti capaci a parlare. Però guarda, la questione... Per egoismo, fanno come i cani. Cioè uno dice, voglio un cane, fammi vedere un cane. Allora c'è il cagnolino A, B e C. Lì hanno detto, la californiana con gli occhi azzurri. Poi prendiamo l'indonesiana, che sono più tapine. Lei deve solo partorire. L'indonesiana deve partorire e invece la californiana deve formarmi l'ovulo perché io voglio il bambino bello. Hai capito? Ma qui siamo alla pazzia. C'è una cosa, una cosa di eugenetica, sì. Dici, una cosa nazista. C'è una roba da nazisti. Cioè, Mengel che cosa faceva? Faceva i suoi esperimenti in determinate maniere, no? Cioè, tu dici, Bendola è peggio adesso di Mengele. Siamo i nuovi Mengel a fare queste cose. Cioè, tu dici, Bendola peggio di Mengele, dici? Ah, certo che si paga per fare determinate cose. Quando uno dice questo è un pensiero nazista, mi sembra che se non si sapesse la storia, non sappiamo neanche chi è Vendola, uno comincerebbe a pensare che magari Vendola può essere accomunato a ciò che veniva fatto durante il nazismo, nell'epoca nazista. Perché Parenzo, questo è quello che viene fuori. Cioè giocano con le situazioni, scelgono per essere umani. Senti, ma neanche gli animali, ma essere umani. Cioè, ma si può essere contrario all'utile in affitto senza dire delle boiate. Trump ti piace, mi sembra, no? Ah, guarda, lui è Trump, io faccio il trampolino. Sono più piccolo, però posso fare anch'io qualcosa. Cioè, manco il nel circo di Trump, manco il nano ti fanno fare, guarda, sotto quel tendone lì. Ma manco la donna, manco nel cannone ti sparano. Perché Trump sta rompendo un po' troppi gli schemi, ma non so fino a dove potrà cioè, arrivare. Faresti il trampolino, cioè il piccolo Trump in Italia. Vabbè, ragazzi, però, andiamo. Non c'ho i soldi, non c'ho niente, io no, però. Va bene, giornale radio. Ciao Gianluca, ciao. Ci sentiamo dopo. Sì, ma perché mi devi far ascoltare la Zanzara mattina, pomeriggio, sera e notte? Ma perché la Zanzara è il top. Digital Radio Flash. Ciao, sono Paola. Per ascoltare la radio in Digital Radio devo pagare un abbonamento? No, niente abbonamento né canone. Basta comprare una radio o un'autoradio nuova oppure adatti quella che hai già. E poi è gratis. Molti nuovi modelli di auto hanno il ricevitore incorporato di serie. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Vi presenta La Zanzara. Ciao Cruciani, sono un italiano che vive in Namibia, ma lasciatele stare sti conigli, ste volpi, sti piccioni. Vi mando il patè di zebra in Italia se volete. Una zebra al giorno toglie il dottore di torno. Luciani, ma esistono i non vedenti omosessuali? Beh, effettivamente questo parezza un interrogativo, eh? Cioè, può essere considerato un interrogativo. Cioè, esistono, detto con tutto rispetto, ovviamente, i non vedenti gay. Beh, sì. Ci saranno, dici, no? Non vedo come le due cose possono avere una relazione. Sono curioso io, però, perché... Perché questo ascoltatore si è posto la questione, si è posto la domanda? Perché come molti è un malato di mente, come molti di quelli che chiamano, che mandano i messaggi, è un simpatico malato di testa. Ma sempre la solita storia, sempre i soliti insulti. Ecco, è normale, perché è gente normale quella lì, che chiama e dice queste robe, è normale secondo te? Allora, no. senti questo consigliere regionale in Veneto, consigliere regionale della lista Zaia. Mi meraviglio che il signor Nichi Vendola e il suo compagno non siano stati ancora arrestati dalle forze dell'ordine per commercio di bambini di cui si sono autodenunciati. In un paese dove per un carro di carnevale del tutto inoffensivo sono stati arrestati per terrorismo e sovversione ben 24 veneti, ad oggi nessuna procura italiana si è ancora mossa contro il commercio di bambini di cui si sono resi tristamente protagonisti il signor Vendola e il suo compagno. Mi aspetto che la magistratura agisca con prontezza a tutela nell'interesse primario dei minori, il cui bene è violato per soddisfare gli egoismi di persone depravate. Però devo dirti la verità, questo è della lista Zaia, questo sì, qui. Io considero questa cosa qui una cazzata, ovviamente spaventosa, essendo a favore dell'utero in affitto. Però ti ripeto che chi sostiene che l'utero in affitto è una pratica criminale, una pratica nazista, è una pratica nazista orribile, no, ma è nazista se lo dico io, ma insomma chi sostiene che è una pratica orribile, chi sostiene che è una pratica da vietare come crimine contro l'umanità? Poi però, di conseguenza, dovrebbe dire anche che vanno arrestate le persone che praticano questa roba qua. Cioè, secondo me le due cose vanno insieme, è inutile essere ipocriti, è questo che mi sconvolge. E in fondo ti devo dire che questo signore della lista Zaia, per me sbaglia e non sono d'accordo. Ma arrestare perché ci sono... No, ma lascia avere, però è coerente con quello che pensa. Siccome lui pensa che siano dei criminali, quelli che fanno questa roba qui, e che sia un crimine produrre un bambino attraverso l'utero in affitto. E in Italia lo è, infatti. È sì, bene che rimanga questa norma. No, infatti se, la battaglia va su se quello. Se lui no? pensa così, allora è giusto dire... Di conseguenza si arriva a dire che questi qua vanno arrestati, chi lo fa. Cioè dovrebbe essere coerenza, capito? Ci vuole coerenza un po' nella vita. Ma infatti, secondo me, qualora venisse in Italia, uno dovrebbe essere arrestato, sicuramente. Ma che c'è? Perché se tu ammazzi una persona in Canada va bene, e se l'ammazzi invece no, in Italia, certo no, ma di che no, stai parlando? Certo, dai, che no, allora sono dire, paesi che hanno assurdità. Fatto scelte diverse, però. Ho capito, ma se tu ammazzi una persona in Canada, arrivi in Italia, ti arrestano uguale. Cioè, sì, non è che la passi certo, liscia. Bene, è lo stesso concetto, Non ha lo stesso peso, però, no? Le cose non è però, che hanno sempre lo stesso peso. Scusami, tu commetti un crimine in Canada, un crimine, ammazzi una persona. Torni in Italia, dice, però quel crimine non c'è in Italia. Beh, amico mio, però hai ammazzato una persona. C'è un nuovo Fanzaga all'assalto, signori, via, Don Livio, Radio Maria. Sempre utero in affitto, eccetera, eccetera. Vedremo chi celebrerà il vostro funerale. Aridaglia col funerale, ma c'hai una fissazione allora, Voi siete liberi di decidervi nella libertà, per Dio, contro Dio, sì, lo so che siete liberi, però state attenti, come Satana vuole trarvi nel peccato e nella schiavitù e farvi suoi servi. Costruite pure l'inferno, vedremo chi celebrerà il funerale questa volta. Io come pronuncio la parola funerale so già che ci sono un sacco di gente che va subito a vedere se mi può deferire a qualche organo di giustizia perché mi impicchi. Dunque, ma veramente la morte la auguri tu a qualcun altro, nessuno ti vuole impiccare e ce ne fottiamo dell'ordine del giornalista di queste cose, chi se ne frega che sei stato deferito, ce ne fottiamo. Ah, perché caro... è anche giornalista Fanzaga. Beh sì, certo, assolutamente. Certo, non è scontato, ma sono giornalisti, pure chiunque giornalista, giornalista hanno dato ad essere pure a cani e porci, dai su. L'eutanasia, senti. Adesso vogliono preparare anche la legge sull'eutanasia, per cui, capito, invece di prendere la pensione, con il figlio di lavorare a 70 anni, invece di prendere la pensione, pigli l'eutanasia, capito? Non so se ti faranno il funerale gratis, oppure magari immagineranno di darti, invece della liquidazione, ti danno la cassa. La cassa oppure un forno crematorio, insomma. State tranquilli che arriviamo lì, di volata. Amico mio, non è obbligatoria l'eutanasia, è una scelta! Ma tu sai che cos'è la libera scelta, Don Fanzaga? La libera scelta autonoma delle persone, la libertà. La conosci questa parola, libertà, o no? O tutto è Cristo, Satana, Dio, l'inferno, l'eutanasia obbligatoria e la schiavitù? Non è così, c'è la libertà. La libertà di scelta, anche la donna può scegliere se vendere una parte del proprio corpo o no. Hai capito, Don Livio? E infatti il Foglio Quotidiano titola Camera a gas, non so io che camera è questa, arriva l'eutanasia, cioè mi è scappato camera a gas, ma se arriva l'eutanasia cosa volete che sia? Siamo tornati ai tempi della schiavitù. È l'Europa che è tornata indietro, siamo tornati ai tempi della schiavitù di donne e bambini, infatti quando ha ragione Grillo, cioè quando si mette un prezzo su un bambino... vuol dire che siamo tornati al tempo degli schiavi, non si scappa da lì. Vorrei un fanzaghino. Sì, mi piacerebbe anche avere un fanzaghino, capito? Ormai la mia età non è che sia più giovane, magari avere un fanzaghino, una fanzaghina, capito? Con l'utero in affitto, perché no? Ma sono fuori di testa, sono fuori di testa. Per fortuna che almeno Grillo ragiona. Cioè, capito, siamo passati all'alleanza tra Radio Maria e Grillo, semplicemente perché Grillo ha detto che forse è contrario all'utero in affitto, che questa cosa non gli piace, ma è una posizione chiara pure su questa roba qui, eh? Cioè, non è che ha detto no, l'utero in affitto è una porcheria, ha detto sì, non mi piace il fatto che la commercializzazione, i bambini, eccetera. Michele, provincia di Agrigento, vai. Eccoci, buonasera. Dimmi, dimmi, vai, vai, dimmi. Buonasera agli ascoltatori. Sì, sì, sì, dai. Ma state parlando che chi utilizza l'utero in affitto va arrestato? No, io veramente qualcuno l'ha detto e dice se viene arrestato all'estero deve essere arrestato pure in Italia. Ma è normale, ma c'è la legge per arrestare qualcuno che usa l'utero in affitto? Ma non lo so, ma secondo me non va arrestato nessuno, cioè solo che va fatta la legge, secondo me. Vabbè, poi? Poi poc'anzi parlavi degli ambientalisti del cazzo. Sì. Non mi pare che vada trattato con tutta questa semplicità. No, ma io ho detto un'altra cosa, Michele. Ho detto che purtroppo stiamo assistendo a che cosa? Che abbiamo l'utero in affitto, la prostituzione, il nucleare. Se volete, altri ascoltatori hanno aggiunto gli OGM, altre cose. Tutto ai confini dell'Italia, cioè tutto avviene legalmente ai confini dell'Italia e c'è una trasmigrazione di persone e anche di cervelli, se vogliamo, verso l'estero per l'utero in affitto, di persone che vanno a creare bambini all'estero e di persone che vanno ad alimentare il commercio della prostituzione all'estero, cioè danno lavoro e soldi a imprenditori del sesso all'estero. E poi nel campo del nucleare abbiamo le centrali nucleari al confine, però noi non le possiamo fare, cioè le abbiamo in Francia, dunque se succede qualcosa sicuramente siamo investiti pure noi. Dovremmo togliere pure quelle della Francia, ma non lo so, ma è tutto così, tutto per moralismo, per il Vaticano e per altre cose. No, non per moralismo, no. Per mille motivi, infatti, ho detto, non solo per moralismo. Ciao, Francesco, Milano, vai. Pronto? Dimmi, dimmi, Francesco, dimmi. Allora, ho sentito parlare prima... Sì. Mia figlia è nata 7 anni fa. Sì. Con una fecondazione eterologa fatta all'estero. Sì, ma non c'entra però. Non c'entra nulla. Quello è giusto. È un'altra cosa, non è l'utero in affitto. No, non è la stessa cosa, è proprio la stessa cosa. No, non è la stessa cosa, amico. Non mi risulta, però... Aspetti un attimo. È nata 7 anni fa, da una fecondazione eterologa fatta all'estero. Io non vi è dato di sapere se io vivo con un uomo o con una donna. Sì. Non vi è dato di sapere se ha donato sperma, se ha donato ovulo, se ha donato entrambi o se vi sto raccontando palle. Sì, ma sono due cose diverse, dai. Ma non c'entra proprio nulla. Sono due cose diverse. Non è vero, dai. Adesso glielo spiego perché. Francesco, senti, ha partorito sua moglie, però. Ha partorito tua moglie o no? Ha partorito tua moglie o no? Ha partorito tua moglie o no? È irrilevante. Ma non è irrilevante. Questa è la questione unica. È questa l'unica questione. No, non è questa. Va bene, in questo momento, amico mio, si discute di questo ultimamente. Poi non me ne frega niente andare alle tech. Sono due cose diverse. No, si discute se il figlio è un costrutto biologico o un... Ma infatti, guarda che molte persone che sono contro l'utero in affitto sono anche contro l'eterologa, cioè Lucio da Lodi. No, non è il mio caso, però. Lucio da Lodi. Buonasera, saluto tutti. Dimmi. Cruciani, tu ti rendi conto delle cazzate che dici? Su quando che cosa? Parli del fatto che la donna può elevare la sua condizione economica affittando l'utero. Io non so di quanto la possa elevare, però sicuramente se qualcuno lo fa per soldi è perché pensa che quei soldi servano. È molto semplice. Prendono 4 soldi, qua si tratta semplicemente io non lo so di quanti soldi... la condizione economica delle grandi, delle multinazionali, di cliniche dove operano queste ma non lo so, ma a parte che la multinazionale di per sé non è che sia la Gestapo, cioè è una multinazionale, sono aziende, eccetera, ce ne sono di grandi, ce ne sono di piccole, cioè non è che è tutto dominato dalle multinazionali, anche il campo dell'utero in affitto. Beh, io non so se le donne diventino ricche, cioè potrebbero sicuramente lo fanno per necessità, lo fanno per soldi, punto, lo fanno in gran parte dei casi per soldi. E ti dico la verità, è meglio farlo per soldi, ma che non gli cambiano è la vita, meglio farlo per soldi piuttosto che gratis. Che soldi gli cambiano quando... Ma che ne sai? Che ne sai? Una donna in certi... Schiavi tu per partorire. Ma come perché le vacche? Schiavi... Dice bene buon anno, come le vacche. cioè ti mette, le mettono in cinta. Scusami, Lucio, ma tu che diritto hai, che diritto hai di dire che una è una vacca semplicemente perché ha deciso di partorire un figlio per soldi e di dire che è una schiava, ma una schiava di chi? Fabbrica un bambino e poi va, arrivederci. Ma una schiava di chi? Ma una schiava di chi poi? Una schiava di chi? Dei ricconi qua alla vendola. La schiava dei ricconi. La schiava dei ricconi che riescono a pagare per mettersi ad acquistare un figlio. Che poi c'è anche un'altra considerazione. Un cazzo di sessantenne che mette al mondo o compra un bambino per far che? Per poi avere lui il cambio Parolini, cioè glieli cambierà lui adesso. Ma quello poi sono, bambini, ma quello sono un altro fatto che non c'è, questo lui, non c'entra niente. Ma quello sono cazzi suoi, però, non c'entra niente. Cioè quello sono affari suoi. In alcuni paesi si può fare fino a 70 anni, in altri paesi non si può fare. Lucio, poi sono affari suoi. Se uno vuole cambiare il panino a 60 anni, comunque, saranno affari suoi. Su una cosa ha ragione, cioè l'utero in affitto è questo, sì, contro natura, visto che tutti parlano di natura o contro natura. Da un punto di vista tecnico, l'utero in affitto è contro natura. Su questo, beh, certo, non è una cosa naturale, dubbio. È un artificio. Esatto. È un artificio. Quindi, mentre tutto il resto è una cosa meccanica, assolutamente. Tecnica. E allora qual è? Perché vi fa paura la tecnica? No! Adesso ti fa paura la tecnica. Tua moglie com'è nata? Col parto cesareo? Non è una cosa tecnica, il parto cesareo. Ma in generale no. Mica è nata in modo naturale. È nata in modo naturale o no? La tecnica serve. Si faceva dall'epoca di sempre, ma è una cosa un po' diversa. Cioè la tecnica di usare adesso c'è l'epidurale, adesso c'è l'epidurale, ci sono un sacco di cose, la tecnica va avanti, ma non ha nulla a come che va vedere avanti con l'utero in questi... in affitto, ma no, cioè, certo... non è tutto uguale, la tecnica può essere usata per delle cose, vabbè, per aiutare la natura, altre cose sono totalmente innaturali perché due persone non possono avere un bambino e ricorrono a un altro mezzo. Ragazzi, ormai ci siamo, raccogliamo un euro a testa, vuoi che non ci siano 200.000 che vogliono vedere Cruciani inchiappettato? Ormai l'ha detto. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta La Zanzara. Sono in un bordello tedesco e ho appena finito con due ragazze contemporaneamente e durante l'atto, per ritardarne la fine, pensavo alle occhiaie di Parenzo. Ma come mai Parenzo ha delle occhiaie mostruose? Allora ragazzi, uno dei leader sindacali italiani si chiama Barbagallo, sentite Barbagallo, che dite. Barbagallo, come no? Sì, noi di strafalcioni. Della CISL. Sì, della CISL. Di strafalcioni ne facciamo pure noi, per carità, ne diciamo di tutti i colori, errori, due ore e mezza di diretta, se ne possono dire di tutti i colori, però questo fa anche il capo dei sindacati, uno dei sindacati, Sentiamo, non c'è crocifissione che lo vogliamo mettere al muro? Quando si dice che Hollande che va a spianare, diciamo, quelle tendopoli, se sarebbe successo qualche anno fa, chissà cosa avrebbe... Se fosse successo qualche anno fa... Questa però è abbastanza articolata perché lo dice lentamente, cioè non lo dice mentre uno piano, no, piano, durante la foga di un discorso, no? Cioè lo dice proprio scandendo lentamente tutti i passaggi. Se sarebbe successo qualche anno fa... Però dice una cosa giusta. Cioè dice, e c'è la grande ipocrisia di questi giorni, le ruspe di Hollande non fanno scandalo, cioè lo spazzare via l'enorme campo profughi di Calais, mentre invece se fosse accaduto in Italia sarebbe successo un casino, diciamo la verità, no? Beh, perché la piccola differenza semplicemente è che Hollande però ha una soluzione alternativa. No, l'unica anche differenza è che Hollande è socialista e invece qui se lo fa qualcun altro è un casino, così. Le ruspe quello di qualcun altro destano scandalo, invece siccome Hollande è socialista eccetera eccetera, ma qual è la soluzione? Ma che stai a dire? Quale soluzione? La soluzione semplicemente che... ha tirato via un campo, punto. No, la soluzione è quella che ad esempio prese Cacciari quando era sindaco di Venezia, che ha smantellato i campi abusivi e creato... Ma chi te l'ha detto? Case... Qui non ha creato niente, ha tirato via a Calais il campo proprio di immigrati perché gli faceva orrore. Ha stanziato un sacco di soldi per creare delle strutture per l'accoglienza. Ha stanziato. Ha chiuso quello abusivo, quello di Calais, sapessi quanti soldi stanziamo noi per l'accoglienza che si fottono e si rubano gli altri. Però Alan Friedman, Trump vergogna nazionale. Senti Alan. Noi abbiamo una vergogna, si chiama Donald Trump, è una vergogna nazionale, Donald Trump. Sì, ma quello è un problema. Speriamo che non dica, oggi è il Super Tuesday, le primarie americane, speriamo che non dica. Più in comune con la sua posizione. Sì, vabbè, sì, Donald Trump. Perché Salvini... Il parrucchino. Allora, va bene. Beh, certamente ha molti punti in comune con la Meloni, inutile che la Meloni se la ride, no? Cioè, ha molti punti in comune con la signora Meloni, signor Trump. E poi voglio vedere quando sarà messa di fronte alla dice scelta. Dice meno la Meloni, fa meno show, dice meno castronate. No, ma quando uno dirà, quando chiederanno alla Meloni o a qualche leader di destra, lei chi sceglie tra Trump e la Clinton? Che cosa risponderanno secondo sicuramente, te? Sicuramente Trump, questo non c'è dubbio. Trump, un pazzo cafone, sempre Friedman. Trump è un pazzo cafone. Trump è un pazzo. Trump è il simulacrum della cultura cheap, dei programmi di reality, delle Kardashian, proiettato sullo schema nazionale della nostra coscienza collettiva in America. È una vergogna nazionale, è squalido, ma è un star della TV che sta diventando il candidato repubblicano. Allora guardiamolo subito. Ah, poi c'è una cosa che nei giorni scorsi non abbiamo commentato, David. È questa cosa della famiglia Calò, sì, che è andata in una trasmissione della 7, credo Tagadà, sì, perché sì, il marito si era praticamente rotto i coglioni dopo 14 figli e ha mollato la moglie. Vabbè, può succedere naturalmente, no? La signora, che si chiama Alessandra Bortoletto, è andata un po' a piangere in televisione, cioè, oddio, questo non mi dà i quattrini, eccetera, eccetera. Sentiamo qualche passaggio. 14 figli. Già uno è, come dire, sei malato di mente, perché fai 14 figli, sei malato. Vabbè, non è che l'hanno obbligato, però. Appunto, cioè, a questo qui non è che l'hanno obbligato a farli, eh? No, cioè, ma tutti, cioè, se uno fa, ha contribuito anche lui, no, credo, si è malato tutti e due, ovviamente, non solo lei. In televisione c'è andata lei, dunque stiamo parlando di lei. Se uno fa 14 figli, già di tuo sei malato di mente. Cioè, non è normale fare 14. Dovrebbe essere quasi proibito per legge fare 14 figli. No, vabbè. Sì, sì, proibito, assolutamente. Ma tu proprio che lasci la libertà alle persone, uno può farne quante vuole. Ovviamente non proibisco niente a nessuno. Però se ci fosse una cosa, cioè, guarda, dopo se li puoi mantenere, va a fare anche 20, 14 22. 14 figli, 14 figli. No, sì, e questo, certo, è il punto. Ti lascia il marito e poi vai a piangere in televisione. Ma fai 14 figli. Ma non figli. L'avrà mica lasciato per quello, dai. Ma non per i soldi, ha lasciato perché sarà, amico mio, dopo 14 figli c'è pure il diritto di rompersi i coglioni, beh, no? Quello, cioè, sempre. È anche vero però che lui dovrebbe comunque contribuire alle spese, metà spese scolastiche, metà spese mediche, e finora non ha contribuito. Sì, ma tu non puoi andare in televisione a protestare perché, cioè, dopo aver fatto 14 figli, perché quello non ti dà i soldi. Ve la risolvete tra di voi, 14 figli, amica mia, 14 figli, dai, su. Allora, dove andiamo? Giancarlo, provincia di Frosinone, vai, vai. Sì, buonasera, dai, volevo dirle di abbassare i prezzi, signor Parenzo, perché 200.000 euro mi sembra un po' esagerato. No, sono no, Cruciani. Questo è lui, sono che Cruciani. Vuole fare questo. No, scusa, Parenzo, scusi, non ci pensa nemmeno lontanamente a vendere il suo... Io neanche per un milione di euro. Il suo deretano. Scusi, ho sbagliato io, sai. No, per carità. Mi ha sconvolto. Volevo dire, il prezzo è altissimo, perché... Appunto, l'ho detto. Deve abbassarlo, perché così lei secondo me lo prenderebbe anche gratis. Beh, no, Giancarlo, c'è, appunto perché c'è un sacco di gente che lo dà via gratis, appunto perché c'è un sacco di gente che dà via il cervello. Lui lo ha apprezzato. E io ho apprezzato, dicendo che ogni cosa si può vendere. Io personalmente, la mia virginità. Si può vendere tutto, però secondo me ci deve essere un limite a tutto. Vabbè, questo secondo te ci deve essere un limite? Secondo il me... suo è 200.000 euro. Il mio limite è 200.000. Cioè, no, il suo limite non è 200.000. Fosse una bella donna pure, o un bel ragazzo, non è nemmeno bellino. Quindi, vabbè, Giancarlo, questo è un altro problema. Questo sono affari di chi mi darà 200.000 euro. Sta alzando il prezzo alla prostituzione, alza il prezzo, deve abbassare un attimino. Io lo dico io, guardi. Vabbè, Mimmo da Varese, non mi interessa abbassare, 200.000, vai, Mimmo da Varese. Allora, Cruciani, dimmi. E Parenzo vi saluto. Vabbè, non ce ne frega niente, ragione, vai avanti. Tu hai ragione, perché se io fossi una donna, cioè, voglio dare il mio utero, è roba mia e faccio quello che voglio. Bravo. Com'era lo slogan una volta? L'utero è mio e lo gestisco io, esatto. Dicendo le femministe degli anni 70. Stupendo, questo dovrebbe essere lo slogan. Non i distinguo, se è gratis, se oggi la Boldrini è tornata, se nel caso in cui una donna la pratica dell'utero in affitto, se è fatta volontariamente, allora è tutto un altro discorso, ma è peggio. è peggio, perché è meglio il contratto, non gratis. Gratis c'è l'ideologia, Luciano, dietro, l'ideologia dietro, gratis. Oppure, Luciano, ci sono dei casi in cui uno magari lo può fare per amore. Lo stanno rinnegando tutti. Questo l'utero è mio, lo gestisco io, adesso fate casino, perché fate casino per questo. Ti dico una cosa, ti dico una cosa. Se avessi 20 anni, ma ne ho 70, e fossi una donna, mi farei 10 anni di prostituzione. Una bella vita, mi farei un po' di milioni adesso, e poi mi sposerei e mi farei, mi starei tranquillo. Vabbè, ma questo, amico mio, con me spondi una c'è porta aperta. C'è qualcuno che lo fa, peraltro. Aspetta, mo ti volevo non dire è una cosa, cosa così clamorosa. Mi sono incazzato perché tu mi hai dato una notizia, quelli di Movimento 5 Stelle adesso dicono, ti diciamo come non pagare la RAI. Dice Di Battista che vuole fare una piccola rivoluzione, cioè dire agli italiani come non si paga il canone di RAI. Perché lo faceva la Lega 20 anni fa. Sì, sicuramente. Una roba un po' vecchia, sì. 20 anni fa la Lega. Stavo dicendo proprio questo. In particolare un signore che si chiama Caparini, il grande Caparini, fece proprio un volantino, un manifesto 15 anni fa. No, tuttora non paga il canone, tuttora non paga il canone. Sì, appunto, quindi è una cosa. Allora, Mimo? Cruciani, e fammi chiudere in bellezza ancora. Salvini sta facendo una gran stronzata. Ma su che cosa? Ascolta bene. Su che cosa? Sì. Perché prima è partito a fare il segretario e ha detto, prima il nord, ormai il nord non c'è più. Io sono un terrone, io sono, sono un campano. Vabbè, Mimmo, vai al sodo, che vuoi dire, dai? E cosa voglio dire? E voglio dire che adesso va a prendere i voti dagli sfaticati, da gente che non paga le tasse. E 24.000 forestali in Sicilia, mo va a prendere i voti, e quella gente. Ma io credo, non credo che va a prendere i voti dai forestali in Sicilia. Quelli lì sale sul suo carro, e quella gente lì non hanno niente da spartire. Vedrai la Lega con quanti scandali verrà fuori. Vabbè, ciao Mimmo, ciao, saluto, ciao. Allora ragazzi, c'è un altro che vuole arrestare Vendola qui, oltre al consigliere regionale del Veneto, che dopo magari proviamo a pizzicare, amico mio, sì. c'è un deputato della Repubblica Italiana, un tale Basilio Catanoso, nome meraviglioso, Basilio Catanoso. Sì, ma comunque guarda, la violenza che si è manifestata nei confronti di Vendola... Sì. È una cosa che non si è mai vista, ma solo sì, perché c'è Vendola. Violenza, no, capito, ma è una violenza politica. Se sei però un personaggio pubblico, sì, ti puoi aspettare. Non, non è io che... dico, si può criticare, io sono il primo che dica l'utero in affitto, ma la violenza con cui ci si scaglia contro quest'uomo che ha fatto una vabbè, scelta. Ma quello fa parte del gioco, dai. Ma su, no, non fa parte del gioco, parte però del fino gioco, a un certo dai punto fa parte del gioco. Fa parte del gioco. Cosa si poteva aspettare, Vendola? Che uno di sinistra che è andato a fare l'utero in affitto in California, dai, che violenza inaudita. Vabbè, ma violenza perché c'è internet, perché c'è il web, che sappiamo come si reagisce su web, no? Web è una cloaca. Comunque, ma ragazzi, è il peggio... Forza Italia, Basilio Catanoso, non è vero che è una cloaca, dipende una da chi... Una cloaca assoluta, il più delle volte. Allora, sì. Basilio Catanoso, un deputato di Forza Italia, ragazzi, di Forza Italia, vuole arrestare, fermare alla frontiera Vendola, che dice che ha commesso una violazione di un articolo di legge, tra l'altro secondo me è pure sbagliato, perché torneranno con i documenti regolari, voglio dire a questo deputato, che non è alterazione di Stato, come dice lui, ma torneranno con i documenti regolari, cioè Ed sarà il papà di questo signore, cioè non è che entrano e li fermano, è perché non ci sono i documenti saranno regolari, non per quello che riguarda Vendola Nichi, ma per quello che riguarda il suo compagno, cioè Ed, avranno i documenti regolari, perché in California non è che si fanno le cose a cazzo di cane. Oh, abbiamo con noi Giulia Innocenzi, buonasera. Molto buonasera. Bene. Ciao, buonasera. Come stai? Bene, bene, mi associo subito a Parenzo, dico non è solo una cloaca, ma è un vero schifo quello che ho detto su Vendola. Però scusami, dipende pure da quello che è stato detto, perché ci sono alcune critiche anche forti, tu sei abituata alle critiche feroci e forti che vengono fatte perché uno è personaggio pubblico. Cioè, Luciani, che vuol dire? Stiamo parlando di una famiglia, c'è in mezzo un bambino e ti dico, esatto, io mi vergogno in un futuro se Tobì Antonio dovesse mai leggere quello che è stato scritto sul suo papà, io mi vergogno che delle persone del mio paese abbiano potuto scrivere certe scritte. Esatto. È uno schifo, non solo una cloaca. Cioè, per esempio, che ne so, Buonanno, che prima ha detto da noi che... Buonanno è un vomito, cioè è il vomito, perché è una non cosa... Non gliel'hai detto però, scusa. Ma no, perché è una cosa, non è nuovo il pensiero che io ho di Buonanno. Cioè, Buonanno ha detto, parlamentare europeo della Lega, parlamentare. Votato da più di 20.000 persone. Sì, da 20.000 dementi. Vabbè, non c'è dubbio. Votato da 20.000. Ma sì, perché uno si riconosce nel voto, no? Io mi riconosco, do un consenso a una persona, do il mio voto, che è una cosa importantissima, a uno... come dire, nel quale ripongo, non dico la salvezza assoluta perché non è così, ma ecco, che appunto rispecchia le mie opinioni. Vabbè, comunque, chi vota Buonanno? La perla di Buonanno? La perla di Buonanno ha detto che praticamente Tobia Antonio è un figlio di puttana, perché lui dice che, perché dice che tecnicamente chi, chi fa l'utero in affitto è una puttana, una prostituta che vende una parte del proprio corpo, e dunque il frutto, diciamo, di questo atto, cioè il figlio, è un figlio di puttana, capito? Questa è la, la, la definizione che Puttani, ha dato. Però io mi rifiuto di rispondere. No, di, ma non devi rispondere di per commentare forza. Invece che l'abbia detto, perché quello è Buonanno e siamo abituati a cose anche peggiori, sì. Invece che, la, che abbia fatto un'affermazione simile il ministro Lorenzin, quello è molto grave, perché allora non ha neanche capito bene cos'è la pratica della maternità surrogata. Quando l'ha fatta? Quando è deve, cosa ha detto? Un atto, scusa, di amore, perché adesso stiamo parlando della questione dei soldi e tutto il resto, ma sappiamo anche che è per atto volontario, in alcuni paesi non si possono pagare le donne, e quelle che lo fanno volontariamente, poche, come le vogliamo chiamare? Poche, bisogna come dire le poche. Chiamiamo quelle? Ma no, ma come, io sono a favore dell'utero in affitto, per cui non è che, cioè, Parenzo è contrario all'utero in affitto, io no. Sì, io sì, dunque tu coerentemente dicendo, dicendo questa cosa qua, Parenzo, dovresti dire che queste persone vanno fermate, vanno arrestate, no, te l'ho detto tutta, più volte. Ti ho detto, io sono felice che la legislazione italiana consenta, dovrebbe così, l'eterologa, io sono a favore delle staminali, vabbè, tutto che questo. Questo. No, no, per dire che non è che sono un reazione, tutt'altro. Vabbè, penso poi che la pratica dell'utero in affitto però non sia, per fortuna in Italia non c'è, questo dico, perché ho una proposta per questi politici reazionari contro la maternità surrogata. L'unica cosa che possono fare, togliere, cioè, il passaporto ai gay. Cioè? Cioè, non ho capito. Cioè, sì, è vero, nel momento in cui la pratica della maternità surrogata è legale in altri paesi, i politici non potranno fare niente, perché chi vuole fare una famiglia, chi ha questo desiderio molto forte, lo farà comunque, che loro mettono i loro veti, che loro facciano le loro leggi. E dunque tu dici, se fossero l'unico strumento che hanno per bloccare questa cosa è togliere loro il passaporto. Hanno il coraggio di farlo? Non penso, sì. Non lo possono fare, allora si arrangiano. Allora io cosa dico? Cosa fai? Devi regolamentare. Se questa, sì, cosa esiste, l'unico strumento che hai è regolamentare. Così veramente. Che vuol dire regolamentare? Spiegami, regolamento, cioè renderla legale anche in Italia, dice. Allora, in questo momento cosa succede? Che sono delle agenzie americane, nella migliore delle ipotesi, a meno che tu non vada in Cambogia, quella è la peggiore delle ipotesi, a decidere quali sono le donne che possono fare la maternità surrogata, quali sono le coppie che possono accedere alla maternità surrogata. Vabbè, sì. E così lo Stato italiano semplicemente delega a queste agenzie americane, facendo finta che questo fenomeno non succeda, perché loro hanno detto no, in Italia non si può fare, ma ci sono tantissimi italiani che comunque lo stanno assolutamente facendo. Allora cosa dovrebbe fare lo Stato, se fosse meno ipocrita? Tanto però viviamo in Italia, quindi ci confrontiamo con l'ipocrisia italiana tutti i giorni, lo sappiamo benissimo. Dovrebbe fare, che dovrebbe regolamentare la maternità surrogata in Italia, così che ci sarebbero leggi italiane a decidere come si fa. Ho capito, ma lo vogliono, c'è un ministro che su questo ha ragione. Sì, no, ma io sono posso, io sono d'accordissimo, è giusto. Sono d'accordissimo a legalizzare in Italia. Il problema è che qui ci sono ministri che vogliono invece l'arresto, il carcere, che sia considerato un crimine di guerra, un crimine. Perché ormai la politica non capisce più niente della realtà, cioè loro pensano che con delle leggi possono modellare la realtà sfugge loro di mano, la realtà è un'altra, loro continuano a fare leggi del passato, relegando l'Italia a un mondo che non esiste, a un terzo mondo dei diritti. Io invece voglio partecipare, cioè, secondo te, al la primo mondo dei diritti, e voglio legalizzare la maternità. Cioè, secondo te Italia, l'utero in affitto è una cosa di progresso? Cioè è una roba assolutamente che... sì, e può essere anche un grandissimo atto di amore. Io adesso sto subendo diverse critiche. Sì, lo so, adesso c'è una cosa molto semplice. Tu hai detto, scusami, ricapitolo, tu hai detto, se un'amica o una sorella ne avessero bisogno, io mi offrirei per fare l'utero in affitto, ma dicevi sul serio oppure così, una roba sparata così a cavolo? No, io non è che sparo cose a cavolo. No, magari uno per fare una provocazione dice io mi offrirei, ma tu ti offriresti davvero? Cioè, se tua sorella, una tua parente, una persona, mia sorella e una mia carissima amica o anche un mio carissimo amico avessero il desiderio di fare una famiglia ma non potessero farlo, quindi anche le donne hanno problemi all'utero e quindi si devono rivolgere alla maternità surrogata, io mi offrirei. Sarebbe un grandissimo gesto d'amore e renderebbe la nostra famiglia più larga, arricchirebbe le vite di tutti noi. Mm. E questa cosa oggi mi è impedita, quindi il paradosso per l'Italia è che la mia sorella ipotetica, che però ce l'ho, oppure la mia amica ipotetica dovrebbero rivolgersi all'estero. Allora magari sì, dalla donna cambogiana che lei in quanto disperata potrebbe essere sfruttata. Però scusa, scusami un attimo, tu dici va bene quando è gratis, quando è una questione diciamo di amore, quando non c'è l'affare, il lucro, quando non il c'è denaro, non ci sono i soldi. Io invece penso esattamente il contrario. Io penso che sia meglio avere un contratto con i soldi, cioè, è molto più chiara la cosa, è molto più... No, io dico che sia gratis è difficile che qualcuno si possa opporre, perché come fai a dire che io sono la povera donna sfruttata, certo, se lo sto facendo gratuitamente? Quindi questo dovrebbe essere lapalissiano e già legalizzato in Italia. Quindi dico, allora facciamo il modello inglese, se proprio vi dà fastidio questa cosa dei soldi. Ma non capisco perché vi dà fastidio, a te dà fastidio il fatto che una donna venga pagata? No, a me non dà fastidio, okay. Io dico, sarei anche per regolamentare all'americana come funziona in America, e quindi la maternità surrogata con compenso economico. Però visto che non vivo sulle nuvole, ma vivo in Italia. Dice, almeno consentitelo. Almeno però facciamolo per chi lo vuole fare gratuitamente. Ma tanto dove cazzo andiamo col Vaticano qui? Cioè, dai, su. Questo è il problema, appunto. Con questi politici schiavi del Vaticano, però, perché se il Vaticano parla e nessuno li ascolta, chi se ne frega del Vaticano? Lo so, se sì, però sì, ci sono i politici schiavi del Vaticano, quello sì diventa un problema. Comunque qualcuno ha detto a Formigoni, qui alla Zanzara qualche giorno fa, che l'utero in affitto è come uno stupro. Come uno stupro, che non è una cosa molto diversa da quella che ha detto Buonanno. Cioè Buonanno ha detto che le signore che hanno portato alla maternità, ma lo stupro non ha la volontà della donna, mentre la donna ha la volontà di farlo. Basta considerare la donna come una povera vittima. In Italia veramente ogni volta però, parliamo Parenzo, della donna come se non avesse una non consapevolezza, lo stupro, una stupidaggine. No, però Parenzo, la cosa incredibile è che Parenzo dice sì, hai ragione, ma lui vero, è contrario a tutto. Cioè, ma è, no, tu sei contrario, tu sei contrario in affitto, ma non considero uno stupro, considero che le donne della Cambogia, come lei ha ricordato, ma che c'entra le donne della Cambogia? Ma perché, qual è il problema? Ma qual è il problema? Che ti fanno schifo, lo fanno, ma non mi fa schifo niente che una donna della Cambogia possa stare meglio economicamente dando via l'utero, ma qual è il problema? No, io non credo che questo starà meglio. Razzismo. Sono come perché un conto è la stessa questione della prostituzione. Un conto è la prostituzione di strada, della via salaria. In California va bene, dove c'è in Cambogia no. In California va bene, in Cambogia no. Io sono contrario all'utero in affitto, però, e questo te lo dico sempre. Dopodiché, sì, ma non solo se lei è contrario, tu hai soluzioni di donna americana con volontà. Sì, lui è contrario perché pensa che non si possa. Se c'è l'amicizia su questo aspetto della volontà, io non è che entro a regolamentare la volontà degli altri, cioè questo aspetto qui ovviamente ce lo state impedendo, anche se sei contrario. Quando lo Stato, no, ma quando lo Stato, sull'aspetto della volontarietà, dell'atto ragazzi, d'amore, ma è sempre volontario. In qualche caso, nel 99% dei casi ci sono i soldi, nell'1% dei casi, come nel caso, diciamo, di se dovesse succedere di Giulia, e non ci sono i soldi perché lei lo fa per amore nei confronti di. Ma Cambogiani non dovrebbe essere una volontà disperata perché la Cambogiana. Ma come fai a giudicare? Come fai a giudicare? Quello è semplice. Ma come fate capire a giudicare la volontà disperata o no? Ma che c'entra questo? Se una, è chiaro che la povertà c'è. C'è stata, c'è e ci sarà sempre. Ci saranno sempre persone che lo fanno anche per migliorare. Ma infatti in America una donna disperata economicamente non può fare la maternità surrogata. Tra l'altro, i soldi arrivano lo stesso. I soldi arrivano lo stesso. Ma è vietato per legge. Economicamente disperate. È un paletto. Certo, c'era oggi un articolo, mi pare, su Repubblico, sul Corriere. C'era la mappa, Parenzo, di questo. Tu mi sembra che devi cambiare posizione, perché sei d'accordo con me. E no, io so, guarda, io da, appunto, come cioè, dire, da, non è d'accordo con te, da radicale, cioè, storico, sono per la riduzione del danno. No, ti spiego, solo per la riduzione del danno. Il ragionamento che fa Giulia è, come dire, comprensibile, perché dice c'è una riduzione del danno se tu comunque in Italia, senti, consenti, sei contrario, di farlo, ma perché senza la devi girare? Sei contrario, perché la questione sei per me contrario è talmente tu hai detto che sono contrario, allora certo, basta, che sono contrario. Perché devi dire, però ragiono sulla questione della riduzione del danno, sì, che vabbè, è un tema vabbè, se no vabbè, niente, sono danno contrario anche alla riduzione del danno. È la riduzione, fermi del lì danno, adesso torniamo, fermi lì. La zanzara è come le donne, alcune volte potrà starti sui coglioni, ma quando non c'è, ti manca. La zanzara. Giova, immagino di chi vendola, sai, con la sua narrazione, che racconta Cappuccetto Rosso a suo figlio di 4 anni, ci mette 30 anni. C'era una volta in un'area abitativa presso un territorio boscoso denuclearizzato, laddove viveva una solidaria comunità familiare con una giovane minore pigmentata coi colori del vecchio PC. Ella doveva trasferire un cestino contenente una saporitissima... cioè tempo che arriva il lupo e il bambino c'ha già 40 anni di contributi. Uno potrebbe considerare pure questa una presa, no, per il culo nei confronti della nascita di un bambino, no? No, di una famiglia, come dice, gioca su Vendola, come diceva la Innocenzi prima, scusami. No, perché gioca in modo ironico e sapido su Vendola e sul suo modo di raccontare le cose, non sul, ragazzi, bambino. Ragazzi, quando uno è un personaggio è pubblico, diverso. Si becca, ma no, l'odio delle si becca l'odio delle persone, l'odio dei miserabili, miserabili, quello che è l'odio dei miserabili, e si becca l'ironia di Crozza. Ma l'ironia di Crozza è sul suo modo di far politica, di raccontare, non sul bambino, l'oggetto del vilipendio non è il bambino, nessuno, è Vendola, nessuno attacca è il bambino, attaccano tutti. Beh, Vendola, no? Il bambino chi l'attacca? Buon anno l'ha attaccato il bambino. Buon anno ha detto figlio Formigoni di puttana. Formigoni che dice addirittura stupido. Ma il bambino dice, che c'entra, lo stupro è un'altra cosa. Follia. Va bene, assoluta. Siamo con Giulia Innocenzi che ci ha detto che è disposta per un'amica o per una conoscente molto stretta, insomma, per una persona... conoscente molto stretta, no. Ho detto una cara amica, caro amico, cara amica, e sorella. Uguale, cara amica e conoscente stretta. Conoscente è una cosa diversa, Cruzzo. Ah, è amica, volevo dire, dai. No, amica... perché poi dopo mi cominciano ad arrivare le richieste, quindi vorrei un attimino delineare la questione. Ma perché c'è qualcuno davvero che conosci che ha bisogno? Cioè lo potresti fare, cioè, o è una cosa per ora che... fortunatamente no, per ora però no. Già un'amica che mi è venuta a dire grazie, mi hai sollevata, cioè mi hai sollevata nel senso che potrebbe da un pensiero, qualora mai dovessi avere un problema mi rivolgo a te. Però sarebbe complicato farlo, dovresti andare chissà dove, cioè dovresti diventare... No, però al di là degli scherzi ho avuto anche messaggi da parte sia di omosessuali che di donne che hanno problemi all'utero, ringraziandomi perché ho umanizzato una questione che invece era diventata stellare, nel senso che non stavamo proprio parlando coi piedi per terra. Senti, ma voglio chiederti una cosa, uno come Gasparri che dice che il senatore del PD, lo giudice, va arrestato, gli va tolto il bambino, arrestato forse non l'ha detto, ma che gli va tolto il bambino, e quelli che come lo consideri Gasparri? A Gasparri andrebbe tolto Twitter per l'uso che ne fa, che ormai è un uso terroristico. E tu mi chiedi sempre di commentare queste aberrazioni, ma che ne so, la prima cosa che ti viene in mente. Che usa il suo tempo per fare questi commenti, direi Gasparri veramente usa il tuo tempo per produrre qualcosa lì in Senato anziché su Twitter, capito? Senti una cosa, invece ti voglio chiedere qualcosa sulla... Ma tu sei vegano o vegetariana? Vegana. Vegetariana, so che tu sei molto simpatizzante con noi vegetariani, vegana, no, a casa, attenzione. Però vegana a casa. Attenzione, io sono non sono né simpatizzante né nemico di qualcuno. Io odio Però loro ti odiano. Sì, loro mi odiano perché è evidente, io li metto di fronte al loro estremismo. Li ho chiamati nazi vegani. Ovviamente non tutti, io conosco un sacco di vegani. No, a te piace provocare, ti fai le foto con gli animali morti. No, attenzione, faccio le foto con un animale morto, ma che non è che l'ho ammazzato io. Un animale preso in macelleria. Beh, lo fai per provocare, però no, gli lo faccio contro vegetariani una... e le persone sensibili. Lo faccio contro una campagna che era quella per togliere il coniglio dalla tavola degli italiani. Io invece voglio continuare a mangiare il coniglio e dunque ho risposto alla Lab e ad altre associazioni che vogliono... Con la foto di un cadaverino. Beh, è la foto di un animale che si trova in macelleria. È un cadaverino. Macelleria. Perché è un cadavere? Cioè, mica sarà uguale la foto del coniglio morto alla foto Infatti si chiama carcassa, non cadavere. Vabbè, carcassa mica sarà uguale a quella di una persona. Cioè, non è mica uguale a quello di una persona che muore, cioè sarà no, è un essere vivente morto. Cioè, per te non sono è uguali. Cioè, quando muore un uomo, muore un cane, per te è uguale, è la stessa cosa. Non provare a farmi dire cose. No, no, non provare, è uguale, una domanda. Non sono così. Ecco, lo vedi la differenza? Lo vedi la differenza che c'è? Non è una domanda casuale o per provocare o semplicemente per farti dire una minchiata. È una domanda normale perché tu sei diversa dalle persone che invece no, sono. No, non dalle persone. Allora, come in tutti i mondi, ci sono persone con idee più estreme e persone meno estreme. Io sono vegetariana a casa vegana. Ma che vuol dire poi a vegetariana a casa vegana? Se esce a cena mangia il formaggio. Allora, come si dice, non voglio essere un accollo, visto che comunque mangio molto fuori, sia per me che per gli altri, non voglio dire oddio non posso mangiare la carne, non posso mangiare il pesce, oddio non posso mangiare il formaggio. Vabbè, i vegani veri, i veri vegani ti bollerebbero come una traditrice, come ma una... Sono un'eretica, ma un'eretica glielo totale. Confesso appena ecco. Sono con loro, subito vegana, metto le mani avanti. Vegana per finta, diciamo, vegana parziale. No, sono vegetariana infatti, però ti ho specificato specificato che a casa sono anche vegana. Sei anche vegana. Quindi non troverai prodotti di origine animale se vieni a casa mia. Cioè latte, uova, tutta questa roba non qua, c'è, tutto, tutta tolto, tutto. Ciò, e quindi anche formaggio. I vestiti, ecco, tutto di cioè, cotone. Hai anche cioè, delle scarpe vegane, usi preservativi vegani? Parenzo fa una domanda scomoda. No, sui preservativi non sapevo che ci fossero quelli vegani. No, sì, sui ci sono, ti giuro. Ah, ci sono? Vedi che ancora guarda, ho tanto da imparare. Io non so se tu appartieni al mondo dei gonzi vegani, cioè, purtroppo ci saranno persone sicuramente, perché quelli che producono queste cose sono dei geni, i vestiti vegani, le scarpe vegane, eccetera eccetera, le persone e dunque non hanno colpa, la colpa è di chi va a comprare queste robe, cioè i vestiti vegani, le scarpe vegane, i preservativi vegani, no, perché... vegani, un momento, basta, cose di esistono, anche di cotone, ah no, il cotone forse non si può, i vegani usano il cotone o no? Vabbè, sì. non, beh, tu non ti vesti, sì, certo, non ti vesti vegano, tu andiamo in giro nudo. No, purtroppo ancora non sono riuscita a fare questa conversione totale. Come purtroppo? Che vuol quindi dire, vuol dire purtroppo? Che ha delle scarpe di pelle, perché sono incoerente, Cruciani, mi piacerebbe essere coerente nella mia vita con i miei principi, se sono contro l'allevamento intensivo, se sono contro la macellazione, dovrei poi adeguare la mia vita a tutto questo. Sono una persona incoerente, quindi non lo faccio. Cioè, non ho capito. Con i miei limiti. Dunque, chi mangia la carne, no? Tu lo consideri una specie di assassino o no? No. No, assassino no. Cioè, chi mangia una bistecca oggi, una carne, la carne, qualsiasi tipo di carne, lo consideri una specie di complice della distruzione del pianeta, un assassino? Guarda, ho mangiato bistecche fino a 3 anni fa, quindi non avrei mai detto di me stessa di essere un'assassina. Secondo me può fare sicuramente un processo di consapevolezza, lo può fare, può anche decidere di non farlo, perché ci sono molte persone che dicono no, non farmi vedere quello che succede negli allevamenti perché altrimenti divengo vegetariano, capito? Lo sanno già, sì. E però allora lì sei un po' stronzo, te lo dico, perché... le ma io cose lo so le devi quello guardare. Che succede. L'ignoranza non è una buona scusa. Io lo so, l'ho visto quello che succede. Mi pare. Se te godi, ti no, piace. No, non dire cose assurde, perché figurati se godo nell'uccisione di un animale. Lo considero una cosa, come dire, se è legale, se viene fatto secondo norme di legge, lo considero una cosa normale. Cioè, d'altra parte, la colpa non è degli allevamenti, la colpa è della popolazione mondiale. Siamo tanti e bisogna sfamarci in qualche modo. Ma infatti, non possiamo andare avanti con questo consumo di carne, perché se nel 2050 ci sarà un consumo di carne che aumenterà del 70%, noi non possiamo andare avanti così, perché la terra esploderà. Cioè, questi sono calcoli che vengono fatti, lo so, ma si potrebbe rispondere con calcoli completamente diversi. Gli organismi internazionali. E i vaccini invece? No, adesso mi vuoi anche chiedere delle scie chimiche, non ho capito perché questo parallelismo. Perché ci sono alcuni che ad esempio non vogliono neanche il vaccino, perché siccome molti vengono testati sugli animali ovviamente, esatto. E allora ritengono, i puristi ritengono inopportuno farsi i vaccini, perché comunque testati su animali. No, domanda non è peregrina. No. Vabbè, è una vegana farlocca, Giulia, dai. Io ho detto che sono incoerente. È una vegana così. E purtroppo vedi quanto sfruttiamo gli animali, sono in qualunque ambito, veramente. Vabbè, certo, dovremmo alla fine vivere in delle grotte se proprio non vuoi dare disturbo agli animali. Io faccio quello che posso nella mia vita, voi cosa fate? Io un cazzo. Nulla di nulla, mangio, se lo faccio faccio perché penso che mangiare poco poca carne o poco sia in generale una cosa positiva, ma non lo faccio per motivi etici. Quello che mi lo fa impazzire per te. Il motivo etico, mi fa impazzire, questa è una cosa nazista, il motivo etico, cioè no, una cosa motivo etico è quello principale, ma è una cosa nazistoide, io lo faccio solo per gli animali, perché è nazista? Ma lo fai solo per gli animali, ma che vuol dire lo faccio per gli animali? Cioè, perché io non posso accettare che il costo del mio piatto sia sofferenze perpetrate sugli animali, rinchiusi in dei lager per tutta la loro vita e poi alla fine macellati. A me non è tanto. Ma non esistono solo i lager. Non esistono solo i lager, esistono anche. Ma sei mai andato negli allevamenti intensivi? Ho capito, Sto facendo un lavoro per una serie TV solo su allevamenti e macelli, ma non in Cina. Ma non ammazzi, ma ammazzi anche le zanzare. Tu ammazzi anche le zanzare. Sono andata nell'eccellenza del Made in Italy, sono posti aberranti. Sono posti aberranti perché si ammazzano gli animali. Un animale rinchiuso in un allevamento. Ma perché così? Uno ammazzato sopra l'altro, in mezzo alla cacca, feriti, ammalati. Vabbè, rendiamoli, ma quello è un altro discorso. Se uno se vengono fuori delle malattie, se sono fatti contro. Perché devono dare a tutti gli antibiotici? Perché sono tutti malati. Tu ti stai mangiando degli esseri viventi ammalati che hanno sofferto tutta la loro vita e che vengono uccisi in delle maniere abominevoli, perché poi alla fine non. non tutto quello che dovrebbe essere fatto per legge non viene rispettato, perché gli operai dei macelli devono lavorare a ritmi esagerati, se in questi... addirittura 400 suini l'ora, allora, e non riescono a rispettare le leggi. Se in questi macelli vengono commesse delle infrazioni, se si va contro la legge va benissimo colpire tutti. Se è tutto regolare, uno può anche considerare uno schifo gli animali ammassati, gli antibiotici, e uno poi legge quello che c'è dentro i cibi, come vengono preparati, e ma sceglie se tutto quello che va bene per la legge secondo te va ma bene no, ma, per la tua vita, e non lo metti, ma no, in discussione, ma che c'entra, certo che lo metto in discussione, lo metto assolutamente passivo, no, assolutamente lo metto in discussione. Allora, che argomentazione è? No, ma l'argomentazione è qual è la violazione che viene commessa in questi macelli, qual è la violazione che viene commessa, cioè, allora, i diritti umani degli animali, i diritti umani degli animali, l'allevamento intensivo è assolutamente consentito dalla legge. Se tu vai a vedere quant'è lo spazietto per ogni animale eccetera, già è un'aberrazione di per sé. In più, in molti allevamenti, cioè sbagliata la legge, le leggi non vengono rispettate. Stiamo parlando dello spazietto degli animali, ragazzi, lo spazietto degli animali, cioè, allora, vabbè, ammazziamoli sono in uno spazio, sono d'accordo con te, neanche le finestre. Ma lo sai che in un allevamento di polli con una reazione interna, se viene staccata l'elettricità, muoiono 20.000 polli in un colpo solo? Bene, ammazziamoli in uno spazio più grande. No, non va bene ma nemmeno quello. Ma qual è la cosa che io rifiuto, Cruciani? È importante. La cosa che io rifiuto è che tutto questo viene fatto solo per un piccolo profitto economico. Beh, certo, io perché non viene posso fatto, pensare certo che viene di fatto vivere per in un sistema economico in cui le vite degli esseri viventi non vengono rispettate solo ma non per sono il esseri viventi, io non sono animali. Sistema, sono animali. La carne non la mangio. Vabbè. Ma perché se sono animali allora li dobbiamo far soffrire? Ma, soffrono, quando uno muore soffre, quando uno viene ammazzato per ma farci una bistecca muore, si soffre. Ma quando vive, quando tu li rinchiudi in quegli ambienti, uno ammazzato sopra l'altro che si mangiano ma per forza le così... perché si annoiano. Ma come la vuoi fare la carne? Ma come la vuoi fare la carne? In che modo la vuoi fare la produzione allora, di carne? Allora, ti dico una cosa, la carne pazzesco. Dovrebbe costare molto di più, basta con sta storia che la carne, perché deve essere economica, allora dobbiamo tenere gli animali in questo lager. La dieta mediterranea famosa era alziamo una le tasse, alziamo le tasse per la carne. Già la carne cara. Cioè tu la dici allora Giulia, allora, adesso la gente la vuole mangiare tutti i giorni, ma la vuole mangiare a basso costo, mettiamo le tasse ammalandosi e torturando gli animali. Mettiamo le tasse sulla carne. Mettiamo le tasse. Non devi mettere le tasse sulla carne. Mettiamo le tasse sulla devi carne. Devi impedire che gli animali vivano in quelle condizioni. Ma questo è il made in Italy che noi proponiamo come l'eccellenza. Guarda che non sono tanto diversi i nostri allevamenti da quelli cinesi, Va bene. Grazie. Ciao Giulia. Ciao. Ciao. Ciao, è stato un piacere. Ciao. Viva Goldrake che ammazza i vegani. La Zanzara. Un prezzo per farsi inchiappettare? Parenzo, anche tu hai un prezzo, sono sicuro. Il problema sai qual è? No che manca i regioni, manca i schei! Manca i schei, quella è la realtà! Il peggio, o il meglio secondo alcuni, di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardava. Lui ha acquistato un bambino da una donna sicuramente che aveva bisogno di soldi, perciò povera, e da lì uno che si dichiara comunista e poi fa una porcata del genere è veramente un essere schifoso. Padania bella e libera. Si vuole arrivare a fare un reparto nei centri commerciali, reparto feto, in maniera che così almeno le coppie. E magari liquidazione, pago due e prendo tre. Esatto, cioè, si vuole arrivare a quello, a fare il reparto nei supermercati, il reparto feto, così le coppie omosessuali vanno, lo scelgono biondo, occhi azzurri, moro, occhi verdi, vanno alla cassa, carta di strisciata di carta di credito e via, porto a casa. E Nabucco salirà alto nel cielo. In ogni modo non bisogna sequestrarglielo il bambino o cosa, bisogna bastonare, punirli, chi paga delle multe. Ruba bambini, quei due genitori che non sono genitori. Senza dubbi né ripensamenti. Vanno bastonati. Ragazzi, comunque ripensando a quello che ha detto prima la Innocenzi, la risposta che ho dato a un certo punto è molto semplice, ma non vi preoccupate anche delle zanzare? Perché la grande preoccupazione per le vacche ammassate nei piccoli spazi angusti e le zanzare? Perché le zanzare valgono meno dei moscerini? Beh, fatti qualche vegano, moscerini che si schiacciano, i moscerini che si schiacciano e formiche, vabbè, ma mentre uno va in auto la strage di Moscerini, la strage di Zanzare, la strage di Formiche, quello no? Sono animali diversi? Dai su ragazzi, da dove, da qualsiasi parte la giri. Poi se vengono violate le leggi va benissimo, se vengono violate le leggi sanitarie, sull'alimentazione, per carità, va bene tutto, ma non ci rompete i coglioni con gli allevamenti intensivi. Io invece mi incazzo per la marea di zanzare che vengono uccise, sono molto preoccupato. Tutto per la Libia. Questo con la Madania non c'entrava niente, eh? Cristiano da Bologna, vai Cristiano. Giuseppe, dimmi. Oh, finalmente, non vedo l'ora che facevi quello che hai detto. Cioè, io c'ho pronti 200.000, Giuseppe. Sì, ma figurati, c'hai pronti 200.000 euro. Dai, non c'è nessuno che ha 200.000, giustamente, perché io ho detto, io posso, come dire, violare la mia virginità anale in cambio di 200.000 euro. Questo ma io ce li ho! Ma non ce li hai, Cristiano, non dire stronzate. Dai, ragazzi, per dirla in maniera chiara. Ho dei milioni di euro, io non è un problema i 200.000, ecco perché ti sto dicendo che ce li ho. Va bene, benissimo, mettiti in contatto attraverso le nostre mail, eccetera, nome e cognome, assegno, bonifico. Ma non puoi fare così adesso, però. Ma che vuoi allora, scusa? Ma non hai nulla, sei un poveraccio. Io voglio il tuo culo! Sei un poveraccio, Cristiano, non hai i soldi, non hai i soldi. Troviamoci, poi ti faccio vedere. Ma che troviamoci? Non incontro nessuno. Prima bonifico, allora dare bonifico. Parolo. Prima dare bonifico, poi io dare culo, come si dice. Prima bonifico, poi ha detto alla... Puoi vedere cammello. Puoi vedere cammello, Cristiano. È inutile che fai lo sbruffone, ho i milioni di euro, non c'è un cazzo, sei un poveraccio, un morto di fame. Dove questo li hai invece? Cristiano? Pronto? Ecco, ha abbassato subito il morto di fame, richiamatelo, va. Traffico veicolare. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta La Zanzara. Ma c'è o no? Vai Cristiano, vai col morto di fame, dai. Giuseppe, no, veramente, a parte il scherzo, io c'ho i 200.000 pronti. Ma quali 200.000? Che non c'è un euro? Manda la foto del contante. Ma perché non mi devi credere? Manda la foto. Cosa faccio? Ti mando la foto. Cosa no, manda la foto. Hai questa disponibilità del pushante. Esatto. Io se vuoi ti mando la foto di una bistecca da 22 centimetri. Mamma mia, come sei proprio quella bistecca. Manco Rocco Siffredi dice queste cose. Molto più alto di te, la bistecca di 22 centimetri a Cristiano da Bologna. Ce ne fottiamo della tua bistecca, capito Cristiano? Però tu non sei di parola, Giuseppe. Vedi che alla fine. Vai, dammi, manda una foto 393-71, com'è là? 71-71-701 su WhatsApp. Una bella foto, Cristiano da Bologna, dove c'è l'estratto conto con la tua situazione, col tuo bonifico. Va bene, te la mando. Resta tra di noi, ma no, non mi mandare foto farlocche però, non mi mandare foto finte. Ma che foto farlocche? Io non ti mandami farlocche. Non i soldi del Monopoli, Esatto, c'è l'estratto conto dove c'è la roba vera, non la roba. Domani te lo mando, Giuseppe. Va bene, okay. bene Cristiano, ciao, okay. ciao. Giacomo Brescia, vai. Giacomo! A Parenzo che aveva detto che sono dei miserabili chi va a prostitute. Sì certo. Appunto che ne approfittano. Poi invece sull'utero in affitto fa mille distinguo, cioè Parenzo oggi è una vergogna proprio totale. Beh, per forza, assolutamente, cioè, di fronte alla innocenza si appecorona, cioè no, va alla pecorina e dire sì, no, potrebbe essere una cosa, no, che si può fare, non è i distinguo sì, in questo le cose. Caso non è sì, dai, no. Ma non è sì, no. Come utero sulla in affitto sì, utero è... in affitto no, è molto semplice, sì o no? Non è così, sulla prostituzione non ho mai detto sì, no. Hai detto che chi va a prostituzione è miserabile. Perché ho detto 2 milioni di volte, chi ascolta lo sa, che la prostituzione della via Salaria con lo, certo, sfruttamento, l'Ucraina è in casa cosa, a 3.000 euro è una cosa, invece la prostituzione invece regolamentata, volontaria, senza intermediazione, senza il magnaccia è un'altra cosa, è talmente chiaro che secondo me anche tu lo puoi capire. Ah, no, quindi non c'è capisco. Una contraddizione, no, perché non sai, perché innanzitutto dovresti saperlo prima, ma la gente lo sa innanzitutto, no. La gente chi va sa a puttane lo che sa. Chi va nella chi sala, va sulla, ma non è salaria, vero, ma è pieno di gente. I bordelli che ci sono, ad esempio, in Svizzera. Tant'è che io sono a favore dell'apertura delle case chiuse, come ho sempre detto. Quindi io non è una pieno contraddizione. Di persone, come dici tu, che stanno sulla salaria, che poi non ci stanno, allora, sulla salaria. Ma ha combattuto lo sfruttamento. Via Monterosa, qua sotto, è pieno di puttane. Lì c'è, è se pieno sono di puttane. No, no, lo so io, te lo dico nel io. Nel dubbio dico che non quelle so lì sono sfruttate, ma mi sembra. Nel dubbio dici che sono sfruttate. Nel dubbio. La situazione. Ma chi te l'ha detto? Basta leggere due. Però, vabbè, Giacomo, allora chiunque. Vai Giacomo. Ma avete finito? No, poi. No, ma non abbiamo finito, siamo qui a fare questo, per cui figurati se abbiamo finito. Hai finito tu? No. Forse. Io non ho ancora finito, non ho nemmeno cominciato. E allora vai. Volevo dire che chi va a prendere queste utili in affitto lì vanno a approfittare delle povere donne, almeno il 90% che hanno bisogno di soldi, e praticamente sono dei miserabili pure quelli. Sì, ma Parenzo non ha il coraggio di dirlo, bene, ma che questo... sono dei miserabili chi fa rudere in affitto, che è esattamente, è diverso, ma più o meno è lo stesso concetto. È diverso. No, è un no, po il diverso. Concetto è lo stesso. Dai. No, le cose non sono tutte uguali, se fossero tutte uguali sarebbe facile, no? Invece per fortuna non sono più, non sono uguali. Comunque, rudere in affitto non è uno stupro, ad esempio, è una stupidaggine chi lo sostiene. Stupro è una stronzata, infatti. Appunto, io rimango con l'idea uguale. Che due orecchioni o finocchi, chiamali come vuoi, due finocchi, sì. O anche le donne che non vogliono farsi manomettere da un uomo, vanno a farsi inseminare, ecco, per me quella roba lì proprio non mi va giù. Ma ecco, perché li chiami ricchioni tu? È una curiosità, Giacomo, perché li chiami ricchioni? Ma perché mi viene bene chiamare orecchioni. Orecchione è una cosa, ricchioni è un'altra. Ti chiami ricchioni perché ti piace dire ricchioni, no? Perché è un modo di ma dire. Ma no, le volte cambio anche argomento, non è quello lì il problema. Cioè io, per amore di cielo, non è che lo dica in senso spiegativo, Cioè, è una battuta così come un'altra, non cambia un cavolo di niente. Crociani, ascolta. Dimmi. Volevo dirti una cosa, non ho sentito dire a Zara. Quel barbone che aveva spedito in Egitto, che adesso vuole 70.000 euro, che aveva, gli americani l'avevano portato giù, la Omar, Omar, Omar, lì quel. Ma che cazzo c'entra lì adesso Abu Omar? No. Che ce ne frega a noi, Abu sì, Omar? Sai cosa è successo in Europa? Sai cosa è successo in Europa? Cosa ne sai hanno di condannato Abu l'Italia a pagare 70.000 euro. Vabbè, a quel barbone lì. Oh, 20 e 24 ce ne sbattiamo i coglioni. Leonardo da Roma, dai, Leonardo. Alla fine di oggi. Leonardo, dimmi. Sì, sono qua. Dimmi, dimmi, dimmi, dimmi. Scusa, eh. Allora, intanto un augurio a Parenzo per la nascita del figlio. Grazie, caro. Io spero che tu stavi scherzando quando parlavi dell'utero in affitto, che sei d'accordo, non può essere. È una, è tre giorni che lo dico, da quando è successo il casino. Non può essere, non può essere. Perché non può essere? Perché non può essere? Continuiamo a parlare di merda, di bidet e di puttane. Pure le puttane che stanno sulla strada, quando rimangono incinta, se li tengono i figli. Capito? Tu te non mi risulta, Leonardo, non mi risulta, scusami. Ma te lo dico io, tu c'hai una figlia come ce l'ho io. E beh, allora che c'entra, tua figlia viene da te e ti dice, papà, sto in crisi, non c'ho i soldi, do l'utero in affitto, tu te lo dico io che cosa gli rispondi. Tu gli rispondi che ti aiuta papà, pur di non fare un gesto certo, del genere, perché se tua figlia rimane incinta. Scusami, Leonardo, tu stai. No, scusami, cerca di ascoltarmi. No, ma ti sto ascoltando. Se mia figlia dovesse scegliere di diventare una donna che fa l'utero in affitto, probabilmente sarei. Mi dispiacerebbe. No, probabilmente no, ma sì. Ah, mi dispiacerebbe. Ho capito. Vale soltanto per no, quelle persone, però, scusami, ho detto, che se la passano veramente ho detto, male, che l'unica soluzione è quella di dare l'utero in affitto, quindi vale solo per i poveri. Leonardo, perché fanno contenti, vabbè, i ricchi. Tanto non ha capito. Allora, Leonardo, ma come non ho capito bene? Allora, cioè, no, fermo. Ho bene. Detto un lavoro, cioè non è un lavoro, non è che uno fa come lavoro la portatrice. C'è di chi lo fa. Ma no, per lavoro è difficile, perché non è come puoi no? fare 6-7 gravidanze. Comunque, c'è chi l'ha fatto. Sì, ma non è così, ragazzi. Non è così. Allora, se uno lo fa 2-3 volte, vuole. Ma non cambia niente della sostanza delle cose. Ma però. Non ho capito. Mia figlia è un'altra. Discorso, cosa c'entra mia figlia? No, lui ha ragione nel dire che se uno avesse gli capitasse una situazione di questo tipo, la prima cosa che farebbe se mia figlia fosse aiutarti, il futuro nella mia vita è in difficoltà economica, mia figlia non credo che penserebbe, non credo che pensa, rimango incinta, pratico l'utero in affitto, appunto, una cosa, ci sono mille altre soluzioni, ma lo riterresti no? una cosa ma no, abbastanza ma non, traumatica, credo, ma sarebbe normale, ma credo lo considererei una cosa sì, ma traumatica, puoi dirlo, certo. È normale, sì. Oh, meno male, certo. Ma esistono tante e cose, e allora perché non è normale per altri? È chiaro che hanno una cosa terribile, hanno non può essere trovato. Ti ho detto semplicemente che è una libera scelta. Ma non è proprio una libera scelta così. Leonardo, dai. Questo dice lui. Hai capito? Hanno portato all'estremità quella che è la povertà della gente. Ma è la gente povera, esisterà sempre. Pagare un bambino 120.000, 100 rammette, volendole di tutti gli altri, non me ne frega un cazzo. Hai capito? Non me ne frega un cazzo di questa gente. Però parlare così dei bambini, Cruciani, veramente mi dispiace. Sono anni che ti seguo con la Zanzara. Ma parlare così dei bambini è una cosa vergognosa. I bambini... Fa veramente schifo. E adesso io sono andato a toccare tua figlia. Ma non per carità. Ma che c'entra figlia, mia figlia? Ma non c'è... di un anno, che ma è una non... cosa meravigliosa. E allora che c'entra? Capito? Perché quelli che nascono... Perché quelli quando che... viene tua figlia e ti dice è nato un bambino... è nato un bambino e tu sei diventato nonno e ti viene questa cosa di vedere il figlio e te lei ti dice no papà non lo puoi vedere perché l'ho venduto. Ma che cazzo perché c'entra? Ma dai, ma dici una cazzata, ma dici, ma nessuno fa venire i genitori quando fa queste robe qui, ma non dire puttanate, Leonardo, dai, su, sono fatte da donne in vari paesi, le quali vanno lì, fanno la gestazione, stanno 9 mesi e poi devi dirvi. Ma lì 9 mesi, appunto, hai detto non è che è un periodo breve, cioè è tutto, ragazzi, capisci che è tutta una cosa. Ho capito, io sono assurda. Uno col proprio utero fa il cazzo che vuole. Allora, per rispondere a Leonardo, se mia figlia decide di fare con il suo utero quello che vuole, io non ci potrò fare niente. Farà quello che vuole con il suo utero, chiaro Leonardo? Sada. Ma che vuol dire una cazzata? Ma sai anche tu che è una cazzata. Ma se questa, quello lo vuole fare, come fa? Ma non lo vuoi ammettere. Ecco perché io prima ti ho detto, Cruciani, dimmi la verità che stai scherzando. Ma no, non sto scherzando per niente. Allora ognuno sei, allora sei un coglione. Sennò... amichevolmente te voglio bene perché ti ascolto tutti ma no, i giorni, ma oggettivamente uno fa di tutto per far sì che ciò non accada. Ma che vuol dire? No? Uno fa di tutto per non essere povero. Per non essere povero. Ma beh, sì, certo. Cioè, tu hai le condizioni per evitare questa cosa, ovviamente. Come me, come chiunque di noi, per fortuna. Adesso, siccome mi ha fatto la domanda su mia figlia, se mia figlia dovesse decidere di praticare l'utero faresti in affitto, di tutto per non farglielo ma fare, ma non lo credo. So, magari non lo so nemmeno, magari non lo so nemmeno. Sicuramente. Se lo sapessi gli direi, ma sei sicura o lo vuoi ma fare no, sul ma serio? Ma no, faresti anche di tutto, la porteresti magari da qualche parte, la faresti seguire da ma sicuramente, ma tutti. È normale fermi che sia così per fortuna. Fermi tutti. ormai è tutto degradato, tutto degradato ormai. Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Vi presenta La Zanzara. Parenzo, ma che sei sempre all'ospedale? Ho levati dei coglioni, no? Il bimbo è nato, sta bene. Che sta a fare lì? Qui in Inghilterra, bimbo nasce, 6-12 ore, via, tutti a casa. Mo'. Parenzo, per farti una cultura del porno, come si deve, ti consiglio di guardare un film di John Leslie, The State of Art of Porno Movies. Caro Parenzo, a questo punto alle 20:35 della sera guarda, ti assicuro, questa volta non è una pornostar. Cercherei di fare un collegamento, di chiamare a casa una persona che non è una pornostar. Molti saranno sorpresi perché alle 20:35 di solito ci sono pornostar intersessuali, respiriani o quant'altro, oppure che ne so, protagonisti di film un po' osé. Attrici porno di famiglie sfasciate, transessuali, eccetera eccetera. Io farei una telefonatina a casa alla signora Assunta Almirante, donna Assunta Almirante, perché secondo me la signora Almirante potrebbe dirci qualcosa sul caos del centrodestra a Roma, su questo enorme bordello del centrodestra a Roma. Vai. Sono Assunta? Sì. Buonasera, sono Cruciani, come sta? Abbastanza bene, lei? Beh, non c'è male, campo, sopravvivo. Mi dica. Senta un attimo, don Assunta, allora facciamo il punto sulle elezioni a Roma, è un gran casino, questa destra non si riesce a decidere. Ma lei con chi sta, scusi, Costorace o Bertolaso? Io sto Costorace, che c'entra Bertolaso? E ci mancherebbe, no, Bertolaso. E ci mancherebbe che voto Bertolaso e non voto Storace, sarebbe una cosa ridicola. Solo Storace che o Starace? Storace, non Starace. Ah, perché sa lei. Storace, ah, ecco, perché lei. Starace non c'è. Per fortuna non c'è Starace. Beh, no, se c'era forse era meglio di questi, No, ma che meglio Starace? Starace era un fascista, Starace. E beh, che vuol dire? Beh, come che vuol dire, amica mia? Ma perché secondo lei i fascisti sono da buttare via? Solo da buttare via? Certo, io sono antifascista, ci mancherebbe altro, sono Parenzo. Io non sono nulla perché non c'ero, di conseguenza non mi preoccupo. E come lo considera, cosa? Come lo considera Bertolaso lei? Ma io non lo conosco, non ho ragione di pensarlo. Penso e voto Storace e basta. Penso e voto Storace e basta. Ma occhi basta, chiusi, sì. A occhi chiusi, diciamo. A occhi chiusi. Ma scusi, ormai ma come... siamo abituati al degrado. Uomini veri non ce ne sono più. Di conseguenza uno si adatta. Come gli è venuto in mente a Berlusconi, alla Meloni, di candidare Bertolaso, che subito dopo ha detto che li zingari... Ma che ne so io? E questa qui, non lo so, più che la Meloni è stato Berlusconi, la Meloni praticamente ubbidisce agli ordini di Berlusconi, parliamoci chiaro. Ah, è così, dice lei. Eh sì, ma le pare che Berlusconi si faccia sorprendere dalla non esiste proprio. Ma non è all'altezza la Meloni? Anche se è all'altezza, il comandante è Berlusconi, c'è niente da fare. E lei non è, però non è all'altezza di fare il sindaco, secondo lei? Siccome lei ha detto è una donna intelligente, ma dovrebbe avere qualcun altro al di sopra, qualcuno superiore per capacità e intelligenza. Ma certamente Roma non è una città facile, non è un paesino di 10.000, di 5.000 abitanti, no? E dunque? Ci vorrebbe qualcuno... Che sia vicino a lei, che praticamente soppassieda a quello che sono le necessità di Roma, no? Ah, cioè da sola non ce la può fare? Non ce la può fare, è difficile, Roma è una città grande, con tante difficoltà, è il fatto che non è semplice. È il fatto che una donna, cioè anche questo non pesa. Vuol dire che una donna, se una donna capace e intelligente con un po' di palle, ce la fa più di un uomo cretino che non è in grado. E lei ce l'ha le palle o no? Non lo so, io. La Meloni, no, la Meloni. Non lo so, io non gliel'ho mai provata. Bisogna chiedere a qualcuno che è stato con lei. Come fa a chiederle a me queste cose, scusi? Ma no, ma nel senso le palle, nel senso di carattere, in quel senso là. Di carattere, che ne so io come sono fatto, come non sono fatto. Scusi, ma che ne pensa lei dell'unione gay? Ma non mi preoccupo di queste fesserie. Chi vuole che pensa a stupidaggine dei gay e non gay? Però scusi un attimo una cosa, ma però la questione degli omosessuali, gay, lei come li chiama? Non mi interessano, ha capito? Quando la questione non mi interessa, non mi preoccupo, non la combatto, no. Perché per me non c'è. Beh, non c'è, esisteranno pure questi omosessuali in giro, i gay, lei li conosce. Ma sono per i fatti loro, che c'entro io, non è che io li posso correggere se quelli sono nati male, no? Ma come nati male? Ma che dice? Sono nati male, sono nati in maniera diversa di come è nato lei. Vabbè, questo è un retaggio fascista, come nati male? Ma che frega, io non c'ero durante il periodo del fascismo, il 22 non ero nata. Ma ha sentito che Bendo l'ha avuto un bambino, no? Lui l'ha avuto, lui? No, lui, una con la... Come lei dice, Bendo l'ha avuto un bambino. Beh, no, lui non lo può, fino a prova contraria non lo può fare i bambini. No. La moglie ha avuto un bambino? Ma no, nemmeno la moglie, signora. Lo sa, no? Cioè, con l'utero in affitto l'ha fatto. No, io queste cose non me ne interessano, né mi interessano, capito? Vabbè, ho capito, però... Io sono gli uteri veri, non quelli in affitto. In affitto costano troppo e poi non sa se è buon risultato, che ne sa. Però con l'utero in affitto, lei sa che cos'è l'utero in affitto o no? No, non lo so. Vuole fare gli auguri a Bendole e al suo compagno che hanno avuto questo bambino? Sì, sono con molto piacere, che Dio le aiuti e che gli dia un auspicio, una bella fine a questo ragazzo che è nato, anche se in affitto o in affotto, come lui, comunque è ormai il loro figlio, no? Vabbè, sì, per l'Italia ancora... tante volte non è mica vero che i figli sono quelli che nascono dai propri genitori. Ci sono dei bambini e delle madri che non sono nelle madri, nei figli veri, che riescono meglio di quelli che nascono da madre e da padre naturale. Questo è giusto, cioè un figlio può crescere anche tra due gay, tra due... Senza dubbio, purché sia educato bene, poi è l'ambiente che fa il ragazzo, anche il carattere lo riesce, cioè, a formarlo mamma... attraverso quella che è l'educazione dei propri genitori. La mamma non ci vuole a ogni costo. No. Arrivederci. Un abbraccio, tante cose care, arrivederci. Però devo dirti la verità, Parenzo, donna assunta si è dimostrata, una donna di destra apertissima da questo punto di vista. Cioè, una donna di destra molto molto più aperta di tanti altri. Cioè, ha detto alla fine, sì, una madre importante, sicuramente, però un bambino può crescere tranquillamente e serenamente, dipende dall'educazione, dall'approccio, sì, anche all'interno di una cosa. Cioè, questo detto da una signora quasi novantenne o addirittura novantenne, non lo so. Sì, cioè, erede della famiglia Almirante, che tu tanto detesti, la signora Almirante. Sì. Cioè, ho capito, però la signora donna assunta Almirante è molto più avanti, che ne so, di Gasparri sì, di altri. Non c'è dubbio su questo, dai. Poi certo, ha detto pure che i gay sono nati male, Ecco appunto, gli è uscita, sono nati dall'animo proprio. Sono nati dall'animo. Male. Allora, Dionigi da Alessandria, mi stanno scrivendo molti allevatori dopo l'intervento della signora Innocenzi contro gli allevamenti intensivi. Vai, Dionigi, vai. Volevo solo dire che noi sono 40 anni che facciamo l'attività e pensare che un allevatore... tratta male gli animali. No, la signora Innocenzi dice che sono trattati male negli allevamenti intensivi. Lei è un allevatore, diciamo, intensivo? Certo, di vacche da latte. Di vacche è da un latte. Allevamento intensivo, ho capito. Ah. E allora? Però siamo dei delinquenti perché trattiamo male gli animali. Secondo lei sì. Secondo la signora Innocenzi siete dei delinquenti. Io perché... dico che è una stupidaggine, perché se uno tratta male gli animali non fa la produzione. Quindi quest'idea che uno tratta male gli animali per guadagnare, ma sai, ci sono, è una bestialità. Ma pure secondo me ci sono diversi criteri secondo i quali significa trattare male gli animali. Ecco, cioè, infatti a me gli spazi angusti, appollaiati sopra, schiacciati, come li mette lei, ecco, queste vacche? Come le mette? No, le vacche noi le teniamo in un ambiente confinato, con il più alto livello di benessere animale, che oltretutto adesso ci sono delle leggi europee che sono piuttosto precise. Ma lei dice che soffrono, e gli animali in questo caso soffrono, soffriranno pure, certo che soffrono, non c'è dubbio che soffrono. Una delle mie vacche, se potesse vivere all'aria aperta, non c'è dubbio, nel senso in montagna, fare a pascolare, non avere problemi di produzione, non avere problemi di fertilità e tutto, certo che sarebbe meglio, ma allora andiamo, cioè proibiamo, in proibiamo direttamente gli allevamenti, esatto, dici. Ecco, proibiamo gli allevamenti. E poi vorrei chiedere, ma sì, le mandrie di gnu che continuano a girare nel Serengeti, milioni e milioni di soggetti che producono metano, non servono a niente perché alimentano solo quei quattro leoni, che quei quattro coccodrilli, allora quelli cosa facciamo? Andiamo là, li sterminiamo? Ma che cosa gli animali che non vivono a pascolo in montagna? Ma che cazzo c'entra gli gnu adesso? Non ho capito, scusi. No, quello è un gruppo di animali che non fa niente nella vita, cioè non serve a produrre carne, non serve a produrre latte, e crea i problemi relativi al metano. Perché al metano? Eh? Perché al metano, scusa? Perché una delle cose che viene detta è che gli allevamenti intensivi producono buco nell'ozono, perché il metano delle scorregge degli animali, per parlare chiaro, adesso è, le scorregge è una cosa che crea dei problemi all'ambiente. Vabbè, adesso questa è un'altra cazzata, infatti. Cioè, No, è la realtà. E volevo solo aggiungere una piccola questione sugli allevamenti intensivi, come sull'agricoltura intensiva. Possiamo decidere se appunto chiudiamo tutti gli allevamenti oppure sì, no. Così crolla tutta la produzione italiana, esatto, tutta la produzione italiana, insomma, disoccupati, è una cosa un po' complicata. Antonio da Milano, grazie Dionigi. Antonio Milano, vai. Ciao. Ciao Antonio, dimmi. Senti, ma io volevo solo dire che già carne se ne vende poca, se poi dobbiamo sentire queste scemate, veramente ci saranno tanti disoccupati. Comunque, una cosa, ci sono anche le piante che soffrono, gli alberi, le zucche, sì, come dice Crozza, piangono le zucche, sì, le zucche piangono quando tu tagli una zucca, fa la lacrima, sì, quindi, sì, Antonio, quindi io dico, chi vuole mangiare carne mangia carne, chi vuole mangiare verdura mangia verdura, però non buttiamo merda sopra la carne, perché non è vero, amico, cioè, mio, che mestiere fai tu? Macellaio. Credo, ecco, allora, sì, un parere disinteressato, ma è giusto che sia così. C'è conflitto di interesse clamoroso. Ciao Anto, ciao. Però, amico mio, esiste anche il matrimonio tra cani. Ti giuro, in America sono arrivati al matrimonio tra cani. Io non ce la faccio nemmeno più a commentare queste cose. Ho scoperto che esiste anche l'apparecchio per i denti per i cani. Cioè, si stanno appassionando sul web, all'epopea di un tale che si chiama Wesley. Io conosco solo Wesley Snyder, ma c'è un cane che si chiama Wesley, non so dove, in Gran Bretagna, in America, che porta l'apparecchio per i denti, cioè l'igiene dentale degli animali. Io pensavo azzannato il padrone. Pensavo di aver visto tutto, ma evidentemente lo sprofondo bisogna ancora raggiungerlo, lo sprofondo. Intanto, il matrimonio tra cani, amici miei, tra cani. È lei la sposa? Già, proprio così. È tutto vero? Sì, sì. In molti mi hanno chiesto, il tuo cane si sposa davvero? Fiona ha avuto una vita difficile, l'ho salvata dalla strada. Voglio darle il meglio. Allora, perché non organizzare un bel matrimonio? Chi sarà il fortunato? Beh, si chiama Chico. Chi dei due ha fatto la proposta di matrimonio? Credo sia stata Fiona. Ma che furbacchiona! Sì. Chico e Fiona non vivranno insieme, ma organizzeremo per loro parecchi appuntamenti galanti e pigiama party. Comunque, ragazzi, io sono convinto che questi sono dei geni, cioè questi che organizzano sono dei geni assoluti. I rincoglioniti sono quelli che pensano di fare sposare gli animali tra di loro. Sposare gli animali. Senti, la saga continua. Il matrimonio di Fiona e Chico. Chissà se i cani della signora Celentano e del signor Vaira si sono sposati insieme. Chissà se possono convolare il matrimonio. Ma sono due femmine quelle, mi pare. Ma non lo so, ma ce ne avranno 4, 5, 6, faranno una mucchiata tra cani. Salve a tutti. Giù, seduti. Tra poco i nostri Fiona e Chico si uniranno in canimonio. Ripeta dopo di me. Io, Chico. Io, Chico. Prendo te, Fiona. Prendo te, Fiona. Come cucciolotta. Come cucciolotta. Prometto di ricordare le mie origini. Prometto di ricordare le mie origini. Di umile trovatello. Di umile trovatello. Io, Fiona, prendo te, Chico, come cucciolotto. Io, Fiona, prendo te, Chico, come mio cucciolotto. Prometto di darti sempre la precedenza. Prometto di darti sempre la precedenza. E di insegnarti a cacciare gli uccelli. E di insegnarti a cacciare gli uccelli. Con il potere che mi è stato conferito, vi dichiaro marito e moglie. Caro Chico, adesso puoi leccare la sposa. Evviva! Cioè, ma ti assicuro che non è solo una messa in scena, eh? È tutto vero, è tutto vero, è tutto vero, ed è un programma americano che si occupa di queste puttanate. Stefano da Firenze, vai. Pronto, ciao. Dimmi, dimmi. Ciao, ascolta, siccome con questa storia del 200.000 euro, non so se lo trovi, allora, visto che siamo parecchie migliaia, centinaia di migliaia a sentire questa bella trasmissione, Radio 24 apre un controcorrente e così sul controcorrente tutti noi diamo il nostro contributo affinché tu riesci a raggiungere questi 200.000 euro. No, ma scusa, amico mio, adesso io posso fare di tutto, per carità, però adesso mettermi a guadagnare aprendo una sottoscrizione 200.000 euro e farmi inchiappettare mi sembra un po' troppo, qualcuno mi fermerà, qualcuno mi fermerà. Ma poi dovrebbe essere, scusa, era una provocazione che però era collegato a un fatto di attualità. Cioè, secondo me... si siamo preso sul serio, però. No, ma se qualcuno vuole veramente darmi 200.000 euro, io sono disposto, un po' di vasellina, un po' di un preservativo e tutto a posto. Cioè, se arriva alla conclusione, che sarà mai un'inchiappettatina? Che sarà mai? Cioè, gente si fa inculare ogni giorno per mille cose. Cioè, la gente... Noi siamo inculati ogni giorno per... Metaforicamente. Ho capito, ma invece io per 200.000 euro una piccola inculatina non te la puoi fare. Ma mi pare che si possa fare. Francesca, provincia di Torino, dai. Francesca, pronto? Dimmi. Pronto? Ciao Susani, io volevo dire che secondo me hai ragione tu quando parli dell'utero in affitto e in generale non capisco come sia possibile che nel 2016 ci siano uomini che siano così chiusi di mente da non capire che l'utero in affitto, così come la prostituzione, non è soltanto che l'estrema libertà della donna. Perché assolutamente. Soltanto se la donna è libera di fare quello che vuole del proprio corpo, può scegliere di farlo. Io personalmente non lo farei mai, ma vabbè, questa è una cosa mia personale. Però, cioè, non vedo perché dovrei giudicare gli altri. Se uno vuole farlo, è libero di farlo. Ma gratis e non gratis. Anzi, non gratis è meglio. Se lo fai per soldi è meglio, perché altrimenti c'è l'ideologia di mezzo, no? Cioè, non lo faccio perché sono contrario all'aborto. Per carità. Però se uno lo vuole fare gratis, chi se ne frega. Libero utero in libero stato. Libero utero in libero stato. Dell'utero faccio quello che mi pare. Ripetiamo un po' lo slogan di una volta, Parenzo, com'era? Cioè... No, lo slogan era l'utero è mio e lo gestisco io. Dicevo delle femministe, ma lo intendevano in altro senso. Giovanni però. Da Roma, dai Giovanni, fammi godere. Giovanni, fammi godere, vabbè, non mi fa godere. A domani, dai, ragazzi, a domani. Io c'ho pronti 200.000, Giuseppe. Ma io ce li ho. Io voglio il tuo culo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.